dice, in accennare ha detto c'è la foto può entrare, ci può stare presso, ma è un bel fatto, stava arrivando 9:10, mi ha detto a me. Fresco, ma non carico molto io la notte, mi piace più mangiare a pranzo, se sono a casa, se sono fuori, la canzone è sempre grida, fuggi, fuggi, fuggi, fuggi. Vero, vero. No, non viene la sera, non viene tale energia, è vero. No, perché anche se vuoi che pesante poi ti viene con la sonnolenza e stanchezza, e non va bene, non va bene. Infatti di solito la notte si cena pochissimo, si cena più, si pranza di più, il pranzo se riesci a smaltirlo meglio, una cena poi se magari c'è caldo, dormi male, no, non fa, no, ma io sono abituato così, soprattutto qui in questo periodo non sono un grande, sto scendendo parecchio perché voglio rimangiare ne è poca. Sei sempre nelle tue rene, siamo a buio, non tutti lo mandano, cavalieri nervosi, incazzato perché arrivi la domenica a prendere servizio, per dare soprattutto un servizio, cazzo chi dovrebbe lo sabato ti lascia un casino di Gesù Cristo, non capisce. Sento, visita medica l'anno scorso, poi non l'ho più visto. Sassari, faccio via Milano, una scuola via Milano, sta creando un sacco di problemi, perché ci vuole tutta maletta a recuperare, se no vediamo se recupera stanotte. Faccio via Milano alle sia un quarto, sia 20, e poi scendo 7:10, sono lì, non c'è problema, poi arrivo direttamente a Monteolo. Vedere se tutto è a posto. Ma come sono a Sassa? Tutta la settimana sono a Sassa io, perché sono di turno dei servizi a Sassa. Io vado alla generale quando non sono di turno, capito? A meno che non ci siano problemi, quindi ci faccio un salto martedì e in turno facciamo entrare un altro, sarà molto difficile, cazzo, non posso andare sempre io, no? Dai, se vuoi tre, non so se va il mio collega, o se va l'altro geometra che sta seguendo lo stesso altri lavori. Ah, positivo, positivo. Già va bene, già va bene. Beh, guarda così, già va più che bene. Poi se siete tre, vi devi mettere un po' il lavoro, diciamo, dai. E bene o male si riesce a coprire un po' la fascia, dai. E diciamo siamo 2,5, quanto? Perché il teatro è un po' gravario, anche come dire, ho avuto dei problemi a casa, si è appiato a correre, a volte non avete ragione. Infatti già me ne sono accorto stamattina, c'era lui, tutta la settimana qua a Sassari. Mi ho trovato un po' di casino oggi. Infatti ho chiamato, come dice, boh, forse qualcosa mi è sfuggito, e te ne sono sfuggiti più di una ricosta. Cerchiamo di stare attenti, perché se sbagliamo, paghiamo noi, sino a quando ci sono lavori e quindi siamo costretti a chiudere la regola, va bene, ma se non ci sono lavori che manca l'acqua, e poi a passare a Gagini siamo qui, ci siamo di turno. Lo credo bene, e ci mancherebbe altro. Lo credo bene, ma sta scherzando. Perché purtroppo qua ci sono i problemi, però lavoro è lavoro, poi i problemi, diciamo, noi il pane ci davano in casa loro, però il lavoro bisogna rispettare il lavoro e tutto, perché non puoi sfogarti i tuoi problemi sul lavoro. E allora buonanotte, capito? Il lavoro deve essere lavoro, non ce ne per nessuno, perché dopo se non arriva acqua in qualche zona, poi i casini passate voi, in effetti così. Ciao Sparliero, ciao. Ciao Tore, mi sentite ben entrato avanti. Ciao Tore, buonasera, ben arrivato. Tutto bene, sì? Sì, va bene. Andata bene. Allora, lì caldo stava c'è. Nelle montagne? Oh, sta così bene. C'è la finestra leggermente aperta. Ci sta più che bene, non bene. Vai a tu. Positivo. In effetti appoggio Claudio, perché qua in montagna tira un'arietta bella fresca, si sta troppo bene. E in zona tua, che dice la zona tua? Sta bene, ma oggi ha fatto il caldo. Ah, positivo, alla grande che ha fatto caldo, sì, hai voglia, anche di più di caldo, cava, riprendi Claudio. Diciamo che non è che abbia fatto così caldo, ci non è, già si sta bene. Va bene, Spagliello, va bene. E allora, le ferie ancora non bisogna andare in ferie? Ferie, a settembre. Oh, paragosto, meglio così, e più belle sono le volte, a settembre. Dopo la fine ci abbiamo 8, io lavoro nel settore idrico e c'è molto da fare. Aspetta, forse ci siamo sovrappolati, sbagliati. Certo, io lavoro nel settore idrico e quindi ci abbiamo molto da fare in questo periodo. Ma meglio così, già va bene, meglio ci sia lavoro. Settore idrico, ma no amico. Allora. Ma Già la sinfonia di Sabuletta, ma è salita, eh? Come non ho capito niente anche a me. Ne ho fatta una di quasi 200 euro, però non di qua, di via Pascoli, perché qua la paghiamo tutti assieme, ne arriva una unica e poi la divide l'amministratore in tabelle medesimali. Invece di via Pascoli c'è un unico contatore, 186 euro, la matta di cavallo. Niente, po', io mi da quanto pagato io. Stanno castagnando forte. Io ho pagato 900 un anno. Questi ultimi anni 700. Cazzo. E vabbè, lo puoi fare a piazzare, non è che si paga così, no? Io gliel'ho già portata in ufficio. Guardami. Non parlare tutti assieme, non me frega niente, ma. Ci abbiamo la possibilità di farci la rattesa, l'ho detto, mettetemela in busta e prendetemela in tre volte. Cazzo, sempre tu scendo, no, mina te ne pago nulla. Sì, vabbè, tu la paghi per pulizia, ti danno il lavoro. E se li prendono sì intanto, se non la paro se li prendono da là. Però se quindi non ti credi che stanno lì a girarsi molto intorno. Ma e tanto dove c'è il posto Eva? Ma che buffo, avevi dovuto ancora. Non mi ha levato nulla. Me lo sapevo di me neanche io. Me la sto temendo, ma già si fa caso Mattis. Piano piano. Non ci paga. Perché ci paga? L'altro bisogna pagarla. Piano poi non pagano i stipendi a lui. Capitomi, Claudio, e che senso ha a pedassino insieme a Zano? Claudio, comunque qualche casino succederà a quel fatto dell'acqua, non è perché lavori da parola. No, ma il casino già c'è già, intanto adesso faranno la gara internazionale, si sta già verificando il capitale da poter inserire al ruolo degli enti, perché come non è un SPA capitale pubblico, quindi sicuramente faranno qualcosa, perché la gestione non è delle migliori, perlomeno noi facciamo un lavoro particolare, io faccio un lavoro particolare, non sono in ufficio, non mi interessa niente, non devo criticare l'operato dei miei colleghi, però so che c'è qualcosa che non sta funzionando, questo l'ho visto anche io, perciò se loro non riescono a mettere tutte queste cose a posto entro fine anno, ci sarà una gara internazionale, quindi l'acqua sarà data in mano ai privati, allora ci accorgeremo qual è la differenza, perché il privato è solo di vuole, lì non sta a girarsi le balle, non paghi, stacca. L'abbiamo voluto noi, e allora così è, noi l'abbiamo voluto, loro gestiscono male la situazione, e gente che cazzo anni non pagava anni lungo. E quindi chiaramente ci sono un sacco di problemi, ma non parlo di Sassari, che Sassari diciamo che è una delle città che ha aderito dal primo momento a questa nuova capitalizzazione, però cazzo ci sono comuni che non ne vogliono sapere, come Pesco, se devono un sacco di miliardi e praticamente la società sta iniziando ad andare in rosso, capito? Positivo, più che altro con molti posti non voglio addirittura pagare la bolletta, troppo alto, ho letto nei giornali certe volte, anche qui c'è un mezzo casino che volevo fare proprio per l'acqua, ci ha parlato, è venuto anche lui, ci ha parlato nel sacco, e c'è molta gente che non vorrebbe pagare più. Ma io per me l'ho pagato, così sono sicuro che non mi staccano niente. E sono discorsi, insomma, non si possono affrontare con la radio, comunque sono cose che dobbiamo capire un po' tutti in generale. È stata fatta nel 2005, è stata formata questa società capitale pubblico, ha gestito per sino al 2006 per due anni con i soldi delle utenze, e poi chiaramente non è che puoi gestire una società che 500 persone a carico, perché noi siamo 1800 in tutta la Sardegna, non siamo 4 gatti. E quindi non puoi gestire solo con i soldi dell'utenza, perché SPA capitale pubblico praticamente viene gestita sì dai bilanci annuali dei comuni e della regione. A ricapitalizzare ci vogliono un sacco di miliardi e quindi la regione ha detto va, cavate arrangi, noi la parte nostra l'abbiamo fatta, adesso si può andare avanti, cerca di volontà, cerca di fatturare, cerca di gestire i servizi idrici nella maniera più adeguata e più corretta. Invece questo pare che non siamo in grado di farlo, né da Cagliari, noi siamo comandati da Cagliari, e nella Sassari che è il distretto più grande che c'è in Sardegna. Perciò non ci mettono in testa di poter gestire la cosa nei modi dovuti, ricchi e soprattutto ordinati, senza fare errori di bollette. C'è gente che ha consumato 10 metri cubi e ne segnano 50, è chiaro che l'utente viene e protesta. E 1, 2, 3, 100.000, allora non hai compreso proprio nulla, metti un ragioniere o fai un ufficio relazione con qualcuno che veramente sappia cosa sono i calcoli, cosa sono i metri cubi, i litri al secondo, e quello che veramente uno ha consumato deve pagare. Che cazzo fa forfè, lo voto pure io, mi miglio la lettura dei metri cubi, ma la trasformo in litri al secondo e mi faccio un forfè. Intanto io so la cifra di quanto noi paghiamo un metro cubo e me lo voto io, e quindi come in questi va dell'ufficio ogni mese, ecco, questi sono i soldi dell'acqua mia, mi ci fermo. Adesso ci vanno a comprare un accidente, ma io incompetente, chi va alla prima elementare, sono tutti seduti dietro la scrivania, cosa cazzo vuoi fare? Ma ci ha pagato una pistola sulla scuola, voi state lavorando, sono d'accordo che dovete ritirare l'opinione di qua, su quello che ci dico, una roba consumata si dovrebbe pagare, ma c'è un po' di malumore, sai, e io sempre fai la cosa, perché quando sei, se non paghi le cose non va bene, io ho preso questo, non si può avere male, non è nemmeno a rato, fare un contratto in cui e non devo dare male. Quando c'è la possibilità, se non c'è, non ha tocco. Sì, ho solo anche i miei colleghi paesani tuoi, 20, anzi 22 sono, 22, perché è arrivato anche Luciano. Quindi, sono tutti del parere come la penso io, e di quei 20 del tuo paese ce ne sono 6 o 7 dirigenti, quindi dirigenti proprio miei, ex ESAF come ero io. Ma queste cose non succedevano quando c'era l'ESAF, non succedevano. Era una cosa completamente diversa da questa, perché il comandante comandava un dirigente capo e tutti gli altri erano subalterni, responsabili di zona. Qua i responsabili di zona comandano i direttori generali, capito? A chi sono tutti buchi politicamente, e nessuno è in grado di far funzionare la testa. Camminano tutti cazzo con le mani e i piedi in alto, a chi sono dei laini, proprio come te laini insomma. E dopo di me ti rimangono, ti fermare, fermati lì, chi è quello, fa vedere, non fa vedere a me, prima di fare quello, cazzo, se no, mamma mia, quello è il figlio lì, ma non c'è meno foto a me, siamo tutti figli di nessuno, quando lo consuma deve pagare e quando sbaglia deve pagare, cos'è questa cosa di tappa, devi tappa nuda, perché altrimenti tutto il sistema operativo si ferma e funziona male soprattutto, capito come la penso io. Quindi non ho niente da negare, né perché lavoro lì, né nulla, io sono di quei pochi che parla in faccia e dice le cose come stanno, perché sono uno dei primi che quando mi girano sempre le balle chi comanda lì dentro, dico proprio tu lì non sei buono a fare niente, ti conviene andartene e lasciare il posto all'altro competente, perché tu sei un ignorante e basta, perché ti dico qualcosa, no? Sbagliate, tu li riprendi, dici guarda che stai sbagliando, non è così, questo si fa così, ma tu cosa ne sai? Ah va bene, allora facciamolo come hai detto tu. Dopo due giorni mi hanno smontato un lavoro violento, lui l'ha fatto come dico io, perché lui è un ignorante, ma come quella gente ce ne sono 10.000 lì dentro. Vai Arturo. È positivo, beh, in effetti così, in effetti è proprio così, mi mettono lì in poltrona senza sapere come va la funzione, come non va, e tutto sanno loro, tutto sanno loro, e poi alla fine sono gli altri che riparano, gli altri che ne sanno più di loro, ma che stanno lì in poltrona. KK, riprendi tu. Controllano sua pericia, e poi va, lavora in determinato modo, e chi ripara, sono gli operai specializzati in queste cose. È una cosa troppo lunga da. E poi quando si tratta di molti dirigenti, come dice, è un casino, diventa un casino, e dice di una maniera, che dice l'altra. Infatti 100 teste e 100 capelli, è proprio così. Li prendi la mia. Il manager è un dirigente, sono cose belle perché avere un dirigente di un ente, ma che la dirigente deve essere anche una faccia rispetto verso gli altri, perché non è che uno ha messo lì a comandare. E cazzo con la bacchetta e dici tu e tu, va a fallito, tu e tu, no, non ne siamo abituati di provare, io non sono mai stato abituato così, io sono entrato nel 95, come sempre c'è fontaniere, perché il concorso non era uscito per la mia categoria, e poi nel 98 ho uscito il concorso, ho fatto il concorso, capito? E sono rimasto sempre aiutante, sempre, perché mi è rimasto impresso tante cose che ho visto, che ho fatto e che soprattutto mi hanno insegnato a fare. Perché i vecchi fontanieri erano dei vecchi marpioni, sapevano come muoversi, come fare e soprattutto avevano un buon carattere con le persone, perché tratti con persone, non tratti con animali. Quindi ho detto a me, mi vai a dire come succedeva allora, vai lì e guarda com'è la situazione, se nel caso chiudi un occhio. Ecco, adesso questo non succede più, perché quando io ero all'utente, che ero all'Alghero, a Monte Agnese, facevo l'utente per le campagne, capito? Per recuperare soldi, per recuperare bollette, proprio la mancata bollettazione, i pagamenti eccetera. E andavo a verificare cose che neanche cazzo nel terzo mondo c'erano, capito? Come cazzo ho fatto andare a attaccare l'acqua a uno che vive in una baracca a cazzo di legno, con un tubo volante preso da una villa. Ha fatto bene, io sono fai di nulla, devi lavarci, hai capito? Devo lavarci. Quindi se non ho la possibilità di avere l'acqua, è andata a presa da un'altra parte, ma non è andata a rubare a un altro bobo, è andata fuori a un ricco. E poi vengono queste cose, ragazzi, me la butta a me, devo staccare il tubo, dire tu non ci ottenavi più, ma non hai fatto una cagata, ma non vai tu a farlo. È un po' un casino, ti sento lì, c'è sempre il casino là, e il padalghiero, mi capita di lavorare in certi palazzi, di vedere i contrattori proprio attaccati, di nuovi, proprio già attivati in modo da non parlare di nulla, chi era questo, no? Anche la scelta ho fatto un'ordinanza al sindaco, dove appunto aveva messo in condizione la gente di sistemare i pagamenti all'acqua, perché almeno era 3 anni o 4 anni che non pagavano acqua. Qui c'è stata un'ordinanza di cui io sono andato via. Sono passato ai bacini di utenza, adesso sono responsabile dei bacini di utenza, qui c'è un Monte Oro, Trunco Reale e via Milano come bacini principali, e poi per il Sorso Senno c'è la Giorra lì in alto per andare su al Tirassegno, e poi mi occupo dei lavori, quindi sono assistente di lavori, ma prima non era così, prima c'era questo ente che praticamente faceva le cose fatte molto. molto meglio di adesso. E ti ripeto, ribadisco, perché a capo c'era una persona sola, una, c'era un funzionario e basta. Dove? Da lì, che tra l'altro è di Lavana, non so se lo conosci, che è andato in pensione, si è anche candidato come sindaco due o tre volte, mi pare, che era il geometra Sanna. A capo dell'altra sala c'era il generale Atena che lavorava a Cagliari. E basta, non c'erano altre persone che potevano, tutti i chimici, tutti i geometrini, gli assistenti, eccetera. Quindi facevamo tutto quello che era come ordine di servizio giornaliero. Non è tutto il vicino Manzano, stavo chiamando, e adesso mi faccio un giretto, vedo un po' se c'è da fare qualcosa. Cazzo, non è cosa va, e tu vuoi girare più tu. A questi livelli siamo. Io ti ripeto, ho la mia linea, perché io seguo le direttive da una persona sola, quindi facciamo un programma di lavoro e quel programma va sviluppato. Io una settimana sono a Sassari come turno, proprio a bacino utenza, seguo tutte le condotte, tutte le diciamo tutto, da qua sino a nulla, ok? Dal lunedì al sabato mattina. E la settimana dopo vado in lavori. Quindi io sono programmato, come me gli altri miei colleghi, quelli della mia squadra, però. Io degli altri non so manco cosa fanno durante il giorno. So solo che giornali nei giornali, nelle scrivanie, se tu vai negli uffici è tutto pieno. Però se telefoni e dici devo fare questo, dice guardi venga allo sportello perché non so cosa dirle. Ma hai fatto una cagata, vai, riprendi a tu. È proprio vero. Poi le buone negli non sanno manco un debutto nel birra, niente, per carità. Meglio niente. Come ogni mestiere, lo stesso, come nelle diritte, i vecchi maestri imparano lui. Dovrebbe essere una rotazione di gente con l'esperienza di imparare i lupi, però se si perde quella, Dio. Allora logico è partito a Roma. È ovvio, perché i vecchi maestri erano gelosi nel loro mestiere, non imparavano gli apprendisti, è ovvio che poi va tutto a farsi benedire. Se invece fosse stato l'incontrare, imparare i ragazzi, ci sarebbe stato qualche maestro in gamba dei vecchi, ma purtroppo erano gelosi già loro stessi del loro lavoro. Figuriamoci imparare un apprendista, non mi sembra giusto. Io sono contento se un apprendista segue il mio campo e sono contento di imparare il lavoro, ma purtroppo non è così, capito? Non è così. Prima era una cosa assurda, prima dovevi essere schiavo di lui e basta, il lavoro lo faceva solo lui era maestro, doveva fare tutto lui, ma non funziona così, no? Non funziona, è sbagliato. Quello non funziona, però se uno ha voglia di imparare c'è fare, e non dimentico, poi fai attento e mano a mano imparare tutto qua. Cioè trovi certe persone, però come le puoi trovare certi propri che vogliono fare il mestiere, quindi stare attento, imparare poi le diritti anche. Anche sul settore non tanto facile, dipende. Se uno è dei vecchi maestri e impara a casa da zero e non solo a casa, ma là, oltre a quello fa il lavoro. A me è positivo, ma io sono del parere tuo che purtroppo, io dico purtroppo, devo mettere la parete in mano anche al ragazzo, cioè non è che deve imparare solo in teoria, è la pratica che conta. Se tu non gli metti la paletta in mano, come fai a imparare? È solo teoria. E la pratica si va a farsi benedire. Ci vuole pratica e teoria, tutte e due le cose. Funziona così. E la pagava. Riprendi, te l'ho detto. Sì, ma non sono d'accordo con voi. Non è che... è così. Ma appunto, immaginate che... quando c'è stata la fusione... tutti quelli di Excesa, Fecoma, eccetera. Sono tutti andati via. Che aveva 3-4 anni che mancavano per andare, se ne sono andati. Non hanno accettato. Perché tu stai passando davanti al pubblico o privato, c'erano degli attacchi. E con molte lotte, con molte dimostrazioni, eccetera, siamo riusciti a avere, a mantenere la stessa categoria, lo stesso stipendio e gli stessi diritti, perché ci volevano fare praticamente riniziare da capo. Quasi 20 anni civili, voi se devono iniziare da capo. Non puoi a me farmi una cosa del genere. E ancora oggi siamo nudoli quando non andiamo molto d'accordo quelli ex sinos con noi. Non vuole più assoluto. Non vanno molto d'accordo, perché loro ritengono che noi siamo, dovevamo rimanere o passare all'INAF, all'Etifaz, e non siamo di Giuliano Cagliari, e tu invece appena entrato, che ti avevo assunto politicamente, vieni più con me nella mia città. A questi livelli eravamo proprio, c'era una guerra all'interno, c'era una guerra micidiale. Poi fortunatamente le cose un po' sono messe a posto. Ancora oggi c'è sempre qualcuno che non è molto d'accordo a questa grande fusione che c'è stata. Come voi, ormai era la mia, chi è stato? La persona venga a comandare un cantiere per il cliente di 4 anni. Ma c'è anche il fatto che loro gli hanno tagliato le gambe da subito, noi non ce la potevamo tagliare. Capito? Noi siamo rimasti in amministrazione regionale sino al 2007 e poi praticamente abbiamo accettato anche noi il passaggio con degli incentivi, però capito? Noi abbiamo un bonus che ci mantiene quella busta a pane, mentre loro no. Se io ero un quinto livello sono rimasto, non è che loro sono fatti tutti al secondo. E lì c'è stata la guerra, perché cercavamo favoriti, e là, giovano tutto centrato l'ufficio, colocavano in prima, ci ho fatto un guru per studiare, per fare un concorso pubblico. E cazzo stai dicendo, come mi sono attaccato come i cani? Il problema poi è nato quando è arrivato il momento di creare l'organizzazione. Io ho la macchina aziendale a casa, ho il telefonino aziendale, c'è molta gente che ha il telefonino aziendale ma ce l'ha solo all'interno, si possono chiamare uno con l'altro e boom, e basta, io ce l'ho libero, perché a me l'azienda mi ha sempre lasciato libero in tutti gli anni che ho lavorato, non ho mai creato problemi, non ho mai rotto le palle. Con la mia civiltà non me ne sono mai andato al mare con la famiglia o in campagna a caricare il fieno con i pick-up e con i fiorini. L'ho sempre avuto in posizione stabile, ordinata e corretta. E quindi è chiaro che non mi stanno agevolando. Sono affidabile e hanno continuato a darmi l'affidabilità. Ci sono dei gente che l'hanno avuta a Trentino con la macchina di video, capito? Qui ce n'era due nella mia via, Lesa. Uno è di pensione e poi ce n'era un altro, però l'hanno preso al tempo determinato, penso, però c'è più. Uno era Puletta, lo stesso posto. Chiedo ma i diritti di... Ma gaffa, dottore Puletta, è già pensione. E poi è pensione già da parecchi anni. E l'altro chi è? L'altro è abita di fronte a tutto lui, nella mia strada, è parente, era, l'aveva messo lì sicuramente davanti a qualcuno, ma no, non c'è rimasto tanto, forse faceva il manutentore non paio di me sicuramente. No, ne abbiamo i diritti noi. Vabbè, le categorie sono, si parte dal manutentore appunto, poi c'è il conduttore di impianto, l'assistente e il geometra che dirige. chiamato il dirigente, basta. E poi vabbè, negli uffici ci sono tutti gli impiegati che sono tutti, chi è ragioniere, chi è non voglio fare categorie diverse, ma insomma quello è l'ufficio, basta. Io qua poco ci va, ci vanno una volta al mese a portare le relazioni, ciò con tutti, però da buongiorno, buonasera, soprattutto i miei vecchi dirigenti che sono quelli di CESAF, quelli ci conosciamo tutti, che la maggior parte sono del tuo paese, non faccio nomi qua perché qualcuno c'è anche la radio, perciò. E niente, con Luciano adesso poi siamo visti stamattina, abbiamo intorno assieme, abbiamo fatto la gavetta, si può dire, dalla depurazione a essere oggi lui uno dei buoni conduttori giù a Troncoreale. Luciano è molto bravo e basta, gli altri sono tutti così, un po' scolobrato, qualcuno è rimasto fontaniere di linea, qualcuno è addirittura l'ho mandato a casa perché sapeva fare ben poco, l'hanno messo, ci abbiamo anche quelli che fanno ispezioni di condotta, quindi se vogliono venire d'accordo, quello era Romanino, è come se la camminava per i campagni a gatto a piedi di te, tutto tipo cinghiale. Mamma mia, che lavoro, che lavoro, purtroppo è così, e attorno al tuo discorso uno non è che può entrare dall'ufficio allocamento a passare subito si dice in poltrona, non esiste proprio, così tu parti la gambetta e parli tu lo schiavo e quello no, il padroncino va bene, ma no, vanno bene, quando uno fa si fa la gambetta va bene, va più che bene, che tu entri così alle prime armi e vuoi passare subito al padrone, no, funziona così, no, avanti tu. Vabbè, ora siamo pure, l'importante è quello, il resto, già va bene, ma l'importante è sbagliare, arrivare alla pensione e poi viene qui, cosa ti interessa? Ah, io non ho molti problemi per quello, vorrei lavorare se Gesù Cristo mi lascia sano e come sono adesso. Ci sto pensando, non ci sto pensando alla pensione, io me ne posso andare fra 5 anni, quindi me ne mancano 7, però 2, cioè me ne mancano però 5, 2, 7, 2, 9, 2 me li riscatto, 2 dal militare perché ne ho fatto 24 mesi e quindi me ne mancano 5 lavorativi, proprio netti 5 anni. Poi ho 56, io vado in pensione con i massimi contributi, potrei andarmene, non lo so, devo decidere, perché io ho appunto la legge, quella regionale che ci ha tenuto, quello che stavamo noi lottando e abbiamo ottenuto, perché altrimenti sarei andato a 70 anni in pensione, capito? Siccome ne ho quasi 51, va bene così, non ci sono problemi. Ma è tutto il sistema, ottore, capite? Io non sono entrato in Tanicuto la prima volta a Cagliari, e stavo lì da lunedì al venerdì, dovevo stare sino a sabato mattina e mi hanno consentito di rientrare il venerdì, capite? A spese mie, ho preso una casa lì in affitto, in lire, pagavo 300.000 lire al mese, e prendevo 1.100.000. Allora, capito? Quindi, l'aggiovato di gavetta, un bel, prova di la Luciano, vedi cosa tutto abbiamo fatto assieme. Ah, quando andavo a mandare al Tempio, che pensavo mi stavano facendo uno scherzo, perché ho fatto la notte a Tempio Pischinaccia. Cazzo, si è posto una bufala di nero, tutti io ero dentro questo cazzo di gabbiotto, dove c'era un gabbiotto in ferro, manco casa c'era loro. Adesso l'hanno fatta. Ma quando c'ero io non ce n'era a casa. Cazzo, si è appoggiata a tutta la neve alla porta, cazzo che l'hanno messo in mezzo ai nevi. Non andavo, mi ho fatto tutti i controlli all'interno perché era tutto a computer, qualcuno fa una parte, c'è il telefono all'interno a chiamare il collega, lui fa come chi vi che dovrà mettere in mezzo dei nevi. Ma adesso sei... mamma mia, per carità, è proprio feo. Meno male c'è il telefono, non manco un apparato c'era. Non c'era niente, non so, non c'era niente allora, capito? Prima di c'era i tubi, cazzo, ti dovevi mettere una busta di nylon attaccata ai pantaloni per non sporcarti. E cazzo, poi ci ha calato, va a far venire i dubbi a chi non vede manco rulli, capito? E non ci venire con l'ottimo, chilometri e chilometri. E allora in tempi è di tutta giubilata. E buttato le depurature perché ho fatto anche la depurazione. In mezzo alla mesa, e ve lo so solo a parola. E fa niente per attendere di fare roccia, ma cosa devi fare? Dove hai lavorato tu? Sei appena arrivato, vuoi la macchina, vuoi il telefono, cosa hai di va? Cosa ti serve a fare che cosa? Che lavoro hai tu per avere queste esigenze? Ci vogliono i nuovi per darti il mezzo, per darti il telefonino, per la reperibilità, per tutto. E siamo ancora così, molta gente è ancora così, c'è sempre quel sistema di gelosia, ma perché lui sì, io no? Mentre l'altro giorno ne parlavo con persone abbastanza in gamba, ma non ti tutti incazzi. Intanto, se non vuoi quattro ore io il telefonino aziendale. E poi me lo ritorni dopo un'ora però, perché me lo ritorni? Il mio rimane acceso, lascia acceso, 24 esce 24, perché sono reperibili, ci sono avanti alle 5. La settimana scorsa che l'ho reperito, allora di notte l'aiuto a spiegare col telefono. Cioè chi era? Tu un coreale? Andava a passare la portata perché stava l'altro cima con le vasche. Cosa fai? Te lo passo a te. Allora, facciamo cambio, ti inibisci tu da lui, tu. Prendi la macchina di servizio, vai a trincorare, fai quello che devi fare e poi ti ritorni a letto. Come ti dicono che non va a squillare? Ah, così funziona? No. No, ti va a così. Tanto bambini tu sei un responsabile e che quindi c'è il telefono aziendale. Ha detto, vai, ha fatto una cagata, continua a prendere tu che ha fatto i bambini. E si può chiamare quello che vuole lui, anche... No, molta gente è convinta che fare avere delle responsabilità sia un gioco in tutte le società, non solo in questa dove sono io, ma in tutte le società. Allora non ho una responsabilità, poi c'è anche minima, perché io non sono nessuno, per carità. Ci mancherebbe altro, vorrei qualcuno capisse che sono chissà che cosa. Sono un responsabile d'utenza, dei bacini d'utenza e giustamente le manovre perché i livelli li so io, li vedo io giornalmente, quindi le seguo io, chiamano a me, ognuno c'ha il suo ruolo e quindi senza poi il resto quando non sono di turno faccio altre cose sempre inerenti ai lavori che ci sono da effettuare sempre sulle condotte, sulle linee. Perciò ognuno il suo, ognuno il suo, ma non puoi a dire che tizio Caio Sempronio fa più di quello e l'altro si gratta le balle tutto il giorno, perché ce n'è da raccontare parecchio, ma è meglio che tagliamo ancora le prendi, entrali qui. Purtroppo così. Va bene, vera, ma speriamo che migliorano i tempi, se no guai al mondo. Poi migliorano tu, un clic aggiunta che valemmo, ho visto di Bultur Dolla, dammi un 5, batti un 5 come ti dia povero Goglio, e dammi un segno di dopo noi ci possiamo girare, mica non ti puoi girare più da nessuna parte, non c'è più niente per nessuno tu. Lo so. Lo so, più stiamo andando, ripeto, e torno a ribadire che peggio, e più ci stiamo scendendo, per carità, è proprio vero. Tutti pensano a mangiare, tutti pensano alla loro poltrona e basta, ma non è nulla da fare. Sì, oggi purtroppo bisogna fregarci. tenere cercare quel lavoro che c'è e cercare di tirare qua nella baracca, tutto qua. No, noi stiamo andando bene, ma dobbiamo completare il percorso. Vedete, è stato male il mondo. Noi non siamo nei periodi migliori, però, di la campagna, per il campo. Si lavora, finché si lavora, boh, immagina quando si va bene. Casino se non si fa niente. Ormai è tutto l'indotto proprio sardo che è andato allo sfascio. È proprio un sistema, non so se sono impegni politici, qualcuno che non ha tenuto conto di quello che poteva succedere con l'ingresso dell'euro, perché tenete conto anche quello, cioè, noi siamo passati dalla lira all'euro così, con una fase già di crisi lavorativa in tutti i settori, e però riuscivamo a... Non so, allora si giù che non ci stiamo di volta, no? E siamo passati a una fase di crisi già da quando c'era la lira, però con la lira, ripeto, avevamo un, sai, 100.000 lire, sembrava che durassero chissà quanto. E, la vita era un po', non dico che la cosa te la regalavano, però riuscivi un po' a giostrare. Quando ho fatto l'euro, ci siamo visti con quel tiro, con questa paga, fatto 1.100 euro, su 2 milioni, 200, ma io manca, giù per dire, tu ci hai già visto, fai la proporzione, di 100.000 lire a 50 euro, vedete, canto di 90, di 50 euro, quante cose bevavo con 50 euro e quante cose facevi con 100.000 lire, proviamo a parlare di questo. Ormai è dimezzato, Paolo, sicuramente, non ha più valore, no? Prima stava un pezzo, almeno io nel campo di dire, prima mancava niente, e adesso c'è ancora il lavoro, però oggi si vede che stiamo soffrendo, anche in altri campi, in altre cose, prima la cosa, e purtroppo, certe volte io faccio altro anche, per non sopportare, se no è già. Sì, Antonio, vedi, non ti così male qua rotonda, perché la pila è sempre poca. Ah, tu, capi la voglia di Burugi, tutta lì, perché si fanno queste cose? Perché l'operaio è costretto a non riposare più, a lavorare da lunedì alla domenica, perché i soldi non bastano più, non bastano più, cioè non c'è più quel tenore di vita che prima diceva, ah, 300 già, vado per miglia alle moglieri, la famiglia, la mangiamo la pizza, che sta facendo in pizzeria e con i 100 euro, 100 euro, no, le vecchie, 200.000 lire, cazzo, quando prima mangiavi una pizza con 20.000 lire, 30.000 lire, ma mangiavi 3-4 persone, o sbaglio tu? No, aspetta, hai ragione, 100%. No, no, in effetti, no, non bastano più, no, no. Non bastano perché non ha valore, no. L'euro purtroppo ci ha messo, scusatemi il termine, col culo a terra, perché non esiste proprio. A me, vedi, mi tocca lavorare anche la domenica e sabato, e non c'ho più pace perché non bastano mai questi soldi, non bastano mai. Grazie, quando ne hai di più, ne spendi di più, eh? Bisogna fare anche un salto piano, però fai sempre quello. Ma dipende a tu, ma tu stai lavorando con una ditta proprio assicurata, insomma, per regola, poi ti fai dei lavori extra tu. È positivo, perché non bastano. Non bastano. Adesso quando me ne escono questi lavori? Ti faccio vedere che se tutto mi va bene, me ne esco dalla ditta, mi faccio questi lavori così, perché se ti fidi guadagno più a fare questi lavori privati che lavorare in ditta. iniziate a fare il culo 8 ore per che cosa? Per 1000 euro, 1200 euro? Cioè, per non ha senso, capito? Mentre i lavori privati, lo sai come funziona, no? Ci sei nel campo, lo sai. Col privato è diverso. Però c'è più responsabilità, pagare le tasse da solo, eh? Cioè, come vedo viene rimane più in vita, magari sta nei lavori, però come rimane tra adesso così, se vedi che come sta conduttivo con altra gente, c'è la possibilità, magari entrare qualcosa, fa un giro di clientela, roba così. Positivo, no, per il momento già sto come sto. Sto in ditta perché ho tutte le mie cose, capito? Hai una busta paga e tutti i tuoi diritti. Però se mi dovesse cambiare il giro, che ne riesco a dare un giro buono, la ditta io la mando lì a quel paese, mi scriverò, farò qualcosa, però non posso ingrassare la canna d'oro io trovandomi due spicciole a casa, no, non esiste proprio. Perché sono proprio loro che non, cioè, non si agevolano anche là, ti danno questa frutta a fare, proprio quella artistica che magari, cioè non capiscono che magari anche fuori in busta, se un operaio è bravo ti posso dare qualcosa di più, meglio. Io ho fatto la polieri anche a Sassi, io mi capitava di lavorare anche in certe ditte, fare lavori proprio di palazzi, ma in quattro persone, e fuori in busta a mi davano quello che mi guadagnavo, mi dava un po' di più. Vabbè, te lo spiegate io dopo, oltretutto faccio delle serate con i DJ che mi aggiungo la moto, serate. Pagano bene e le faccio, ma poi le faccio altra roba, si può dire, qualcosina, ma riesco a mettere la roba sempre da parte. È così, riprendi noi. Ma vedi, c'è già la buona volontà di poter fare sacrificio, ma non fai per avere. E cazzo, c'è gente che conosco che fa i sacrifici per dare. E perché quello che entra esce, e lì vabbè è una mala gestione, lì si parla di altre cose, però dico, se uno non ha ancora, io non lo farei il passo che vuoi fare tu. È una buona cosa, perché lavorare in proprio è una buona cosa, se hai una buona gestione riesci a diventare un po' più, insomma, sereno, a stare un po' più sereno se c'è sempre lavoro. Però in questo momento secondo me non si può fare il passo, perché non c'è continuità, c'è ancora molta crisi, si parlerà di assestare un po' l'indotto sardo, quello che era un tempo che secondo me è assolutamente impossibile. Si parlerà nel 2012, con tutte le nuove riforme che stanno cercando di varare, sia nella chimica, sia metalmeccanica, idile, eccetera, e soprattutto avere delle risorse che possa garantire alla Sardegna uno sbocco un pochino migliore per tutti, perché altrimenti si va a fondo, ragazzi, si va a fondo. Un buonasera, un battentino di Barombari, tutti quanti, a chi siamo proprio i giurati a fondo, non vendurava. Questo è il mio punto di vista, anche perché io lavoro da ragazzino, ho sempre dato tutto alla famiglia, ho sempre, per carità di Dio, vissuto bene, questo non lo posso negare. Ho tanto e sto continuando a lavorare tanto ancora oggi per avere qualcosa, per vedere soprattutto mia figlia sistemata, che non è una sola, ma ce la fare, non ti muovi rilassare, non ti muovi rilassare, a chi si ti rilassi, hai perso tutto il sistema, tutta la fantasia, è proprio così, non c'è niente da fare. Ti volevo dire, ma sento molto molto poco Antonio, il mio collega animatore, ma non ci abita più lì ai tri. Sì, Antonio ci ha avuto tre settimane, infatti si deve dare anche un ammalato. Antonio sta vivendo a Sassari, penso, quello sì, a Sassari, poi sale ogni tanto a Iti. Quindi non abita più a Iti, non è vero, non mi hai capito? Di quello sì che è vero, ma comunque la casa c'è ancora. No, lui è preso in cielo lì perché ha l'amante o la volta là. Però la sta. Cipiche, è una cosa che non riuscivo a mettere a fuoco, perché è una persona molto molto nuova, molto corretta, molto, molto precisa soprattutto. Sono stato lì, abbiamo fatto la la linea lì all'interno dove lui, no? Di Arcimessanto, eravamo molto in contatto, un bravo assistente, eccetera. Però poi mi è stato riferito a questo, ma è impossibile, non ci credo, anche perché c'era stato da poco lì a Itere, che era sua, mi ha fatto vedere il suo sciacco, mentre già mai, però poi ha cambiato idea perché ha visto il mio. Una saluba, mi diceva sempre, anche una saluba e saluba. L'esperienza mi ha insegnato anche quello, come sistemare tutto, radio, fare la sistemazione è molto importante, no? Quel senso di sembra che, insomma, che ci sia chissà che, ma c'è la sua un po' più sparsa, tutta un po' disordinata, eccetera. Però molto bella anche la sua. Va bene, adesso ho capito, ma non credo che sia Sassari, comunque lo sento sempre che parla lì da Signori, da quelle zone lì, quindi non credo che sia qua Sassari. Passa spesso qua Sassari, ma so che abita fuori Sassari. Ok, Anthony, a te il micro, cambio. Cose che capitano, che ci vogliamo fare? Ma sciscia. Anda bene meda. E ora vogliamo fare? Troppo la vita va avanti e si ferma il perduto. Già, esce dopo. E gappa. Sì, anche io con un'altra cosa da fare, ma non è che ci sia, che ci ha fatto. Ma non me la sei mai aspettato. Perché una persona che ha la casa, ha la voce, ha tutto quanto, boh, non fa di essere mai. Infatti mi dispiace perché è un bravo ragazzo, è tutto lì, e purtroppo sono cose che vanno così, ma bisogna non affarsi. Già si andrà a ripetere il suo, anche ancora. Sicuramente le spalle comunque così sarà nella tua insegna, perché mi ha detto c'era un apparato proprio lì a Sempoli, era me l'ha salito, infatti ha salito l'altro giorno, l'ha fatto vedere tutto qua, quindi fa male che era a Sempoli. Sta parlando così, quello di Lippucchi sempre, entrato c'era anche il giorno che era sua, e l'ha mollato. Ora abbiamo attori di tutti, c'è alcune, non mi ricordo. No, guarda, sì. No, lo sento anche oggi, stavo parlando con loro. Noi che non ci sentiamo, ma non ci siamo più visti. Infatti gli avevo detto che mi ero trasferito nuovamente qua su a Carbonati. Mi ho detto già passavo a vedere come mi ero organizzato. Ho detto quando vuoi. E aggiungo che non ce n'è problema. E vabbè. Quelle sono decisioni personali, cose personali che uno si aspetta e non si aspetta, ma purtroppo può succedere. I primi 10 anni di matrimonio sono sempre quelli che mi fanno lottare e compensare un po' il tutto, poi di quello che sia successo chiaramente non sono problemi miei, non le voglio neanche sapere. Però sono rimasto un po' così perplesso perché dicevo, ma cavolo, proprio lui non si tratta di una cosa un po', poi mi ha spiegato, dice, quando ci vediamo in verticale ti spiego, però non ci siamo più visti, quindi me lo dirà lui ciò che è successo. Va bene, invece, vai Antonio, rilassato, tranquillo, vai Antonio. Oggi dopo 8 ore, grande 8 ore, di più di 8 ore, e ci stiamo rilassando un bel po', vedi così, ma preghiamoci alla salute, dai, bisogna chiedere la mucchia di venire su. E cosa già arriva? Povarità, meglio pensare, mi piace così è. Tutte le decisioni appropriate, la vita è una tradizione. È vero, vero, vero. La mia era solo una battuta, era solo una battuta. Tutto qua. E purtroppo la vita non la decidiamo noi, né quando inizia né quando finisce. Noi sappiamo quando andiamo a letto e non sappiamo se ci alziamo o meno. Tutto all'alto, tutto all'alto, dove? Sai, il buon Spaviero, siamo quasi paesani. Più o meno quasi. Così che... Vuoi molto più anziano, io? Ah, negativo. Io? Sì, scusa. Io sto facendo ancora una lessera, che me vuole 18, come dici, cazzo. Ora vabbè. Sei cattivo io di Antonio. Antonio, il paesano tuo hai preso. Anche lui fa queste cose, mi regala occhio. E si deve regalare anche. Thank you. sul mattone è sempre mattone. E me l'ha detto gira. Quello spalviero 2000 dall'alto assieme all'Aquila e chi passa sotto è arrasato, non tu. Non crede. Ancora tu a San Marichetto la bocca mia otto. Poca voglia ce n'è, ci avete male. Oh, quando c'è, ben venga. Ui, mi aggiorno la notte, che se ne aggiorno l'ago. Ho pensato di aver mangiato. Allora, ci ho pensato di aver mangiato. Bello. Ehi, ma guardi, non faccio il tempo, guarda, appoggiarsi la coppia e a te che dormire. Altro che villito questo, tu e io. Vedi, ha fatto un combattimento. Attento, il combattimento pure. Ah, so quanto vuole. Allora, sì, è stato un poi, che ne sa, sono andato a piano. Ma pensi che è lì? Amico, io so così vedi, io so così vedi, bisogna così vedere, così vedere, fai. Io, comunque, la vita bisogna prenderla anche con un po' di filosofia, con un po' di non essere sempre pessimisti, io ho un sacco di amici e colleghi di lavoro soprattutto, amici di amici, oggi è una cosa molto, molto grande, gli amici si contano sul palmo alla mano veramente, gli altri sono tutti conoscenti, però alcuni amici veri, veri, veri, ci conosciamo ragazzini, hanno sempre questa cosa di stare, di essere pessimisti, di pensare, piazza al mare, qui e là, e sarò vecchia, devi pensare anche al bello, il chiaro ti porta la mattina e tutto ti deve sorridere, ci sono quelli, quelle mattine che puoi stare rilassato serenamente, ci sono quelle che mattine che però ci sono imprevisti e bisogna affrontarli giustamente, come hai detto tu, bisogna affrontarli, non affrontarli veramente, non metterli da parte, i problemi bisogna affrontarli subito. In modo che non si risolvono e basta, non che li metti da parte, e quel problema che può essere X, domani diventa XX e continua sempre. E se tu lo risolvi quando lo hai già dall'inizio, ti viene più facile, non rimani sempre in uscita sul caldo, anche un problemino da niente, una fesseria, una bolletta non pagata, una gazzata, perché in quel momento non ce li avevi. Ma lasciare lì la parola che sono mezzo, no, dedicate a cimolare, a fare qualcosa, fai, fatti fare in culo, ma poi era subito. Non si può sapere, ma tutti hanno andato. E la mia rimessa è quella, davvero. Davvero, Crani, è la mia rimessa. Allora, e chi c'è un problema? Io ho un amico che è triste, ma non ci sono mai, ma ci posso pensare mai oggi? Voglio andare a comprare la tua raga. No, mi sono dimenticato, toccato, mi è arrivata la letta, non è bene, allora, hai comprato la 27, allora, la 27. Ma che cosa fai, no, gioco, fai un po' straordinario, fatti vai in culo, ma poi la cazzo come sta da lì. E mi sembra che è giusto. Si è fatta la battuta, ma giustamente. E beh, se ci abbattiamo, e la ragione che guarda, se, se tu ragioni a perdere la giornata in negativo, non ti passa più. Ui, deve sempre avere uno, deve essere sempre positivo. Non c'è, si prende, si lavora. Quando non c'è, sicuro si deve arrangiare. Però mai prendere la vita negativamente, perché se no, se non muo, uno è morto. Purtroppo siamo tutti nella stessa parte, bisognare male, tutti su qua, ma comunque è così, ma in certa maniera io posso ritenere sfortunato, fortunato, mi va bene così, non manca niente per adesso. L'importante è che uno ci abbia l'indispensabile, capito? Poi questa cosa di rimane non so cosa raccogliere, perché non so come io la riattaverti. Cosa che l'ha detto? Allora, ho detto, siamo tutti nella stessa barca, bisogna remare. No, infatti non so come io la riattaverti, chi cantava finché la barca va. Ma grazie, lo so, quello di Amaiata Bulletta Senere. Intanto che ti è passato il mio lavoro, perché cazzo non ho fatto il mattino, mi sono rapporto un caffè, ci stavamo andando a timbare. Cazzo non ve la colpa, tu non lo vai, tu non lo vuoi, lo vai, lo vai. Beh, è stato tutta la mattina, cazzo, non è andato così a Aghito. Ma tu vuoi chiamare, vai, Aghito, ehi, allora fatti qualcuno, parolini. C'è la luce solare, cazzo, la luce solare. Sì, ma si fa per iniziare bene così la mattinata, io non vedo gente triste da ragazzi, non ce n'è, si cerca lì di buio, sono molto spiritoso, molto così, quindi stai tranquillo come non ti annui, non ce n'è problema. C'è nome. Tanto, vado a fare una delle mie paure e poi mi sono a paia. Tranquillo, mi quattro tavole ci preso. Guarda, qua c'è la banchetta che ci muove e c'è ancora a terra. Voglio chiedere una cosa. Ma tu vuoi chiedere 4:40? Sì, e qua lo sto usando adesso, sono 4:40, 4:30, 80, 140, ci sono tutti quelli della Kenwood, tutti, ho anche la serie quella con la telefina alla valvola, perché? Ma siccome è quello che è 4:40, andrò per vedere, no, faccio sapere se per caso creano problemi di certi componenti. Meccanismo da contattore. Ma è che sono riuscito a puntuare. Passa via, esci mi cazzo, aiutami lo globale, passa via. No, sta già tanto bello. No, non è che la problemi da tanti anni che uso questo 4:40, ne ho avuto a bizzarra, ne ho venduto tantissimi anche. Non sono per le radio che ti creano problemi, l'unica cosa devi stare attento a non tenerlo molto spento, devi tenerlo sempre in vita, sempre acceso, anche se non parli, perché ha dei componenti sì un po' più delicati rispetto agli altri, quindi tendono a calare molto molto in fretta, soprattutto i condensatori sono molto molto delicati, però il sistema di accordatura è velocissimo. Certo è che tu già insomma sei capace, se non già c'hai il tuo amico Antonio, deve essere lubrificato non spesso ma non tardare molto, perché ha un sistema di accordatura molto diciamo è al fianco e con le aperture sopra per l'aria, quindi quando gira si accorda, fa un tipo vortice, quindi si porta dentro un po' la polvere, capite? Quando ha del tempo diventa rana, ti si mette in mezzo agli ingranaggi e non va bene, quindi ci vuole sempre una soffiatina ogni tanto, ogni 3-4 mesi una soffiatina, non spruzzare mai prodotto perché non va bene. Solo una spruzzatina all'aria e se hai dell'olio Singer, quello fine fine, per le macchine da cucina, gli metti proprio una punticina nel cuscinetto, nell'ingranaggio che va e viene, che sta sul variatore proprio dell'accordatore, basta, per quello non ci sono problemi. Avanti, motopompa, passa via, ma dove ti chiami tu? Io, saluto via tutti. Sembra che stia scrivendo una qualcosa che vuole ingrassata, oleata. Stavo già pensando male, poi gli hai specificato cosa stavi dicendo. Subito che gli ha fatto delle cose, preservativo in kiwi. No, lì c'è un cornicione, lubrificati azzurro, un cornicione, per far sì che non ponga la ruggine sotto la cazzo di leva, no? Capito? Fanno dire la capoccia, ma riprendi a tu. Così le prendi tu per i saluti a compulso, vai a guardare. E però ogni tanto una spostatina la ci vuole, va, dai, cappa, posso ti fruzzargli l'olio ossigeno, metti il polso, la vasellina che si incolla tutto. Dove si a Proaghe, hai detto? Ho detto che lui sindaco di Proaghe è l'amico di Claudio, ogni tanto che gli succede qualche incidente e quello è il palco. Fatto di arrivare a casa a Toledo, mamma mia, uomo bindaccio, per carità, tu se vuoi che abbia la chiamata del presento, Deve parlare, mi piace, ma da un po', un individuale, già fa. Che hanno con quando vuoi così Claudio ti presenta il sindaco di Proaghe. Diciamo se vuoi un blocco di salomo, di bravo, là. Cappa, già va bene, adesso domani mi compro la scritta sindaco di Proaghe, ce la metto nel campanello di casa, non sbagli. Ma tu non ci hanno fatto il comizio nel 2006, bisogna far sì che il paese, il nostro paese, la nostra terra, cazzo diventi come i vecchi tempi, come quando avevamo nel metro, cazzo non viene molto nel metro di chi si inforra dei cantieri, di parte che il cantiere va a fare l'esibizione dove abbiamo poi fare gli andare al corso, cazzo, un pigiamo nel forno a pigiare si è potente in capo a tu. Fa quello che deve mettere, ma anche lui è santo, eh. all'ufficio di Piazza Castello, con cui lui lavora. Non so, con la compagnia di e ci si era buttato in giro a lottare le volte a lavare la macchina, cosa il cazzo qua è tonto, mentre la mappa c'è un mezzo un cazzo. Ma te ricordi, Antonio, quel tipo, c'era una volta che avevamo andato a trovarlo lì a, in Piazza dei Cigni, alto, alto, con la testa grande, che abitava di fronte al bowling, diciamo, appena appena più giù del bowling. Ti ricordi che entrava per quella, c'era la modulare? E quando ho guardato lì che stiamo parlando, più giù del bowling era, nella Pazia Rosa, per esattezza. Di fronte a quella specie di giardino che c'è, che hanno fatto vicino alla chiesa. Ma è capaca, ah, quello lo stavi entrando allora. No, quello è fuggito, meno male. Ma poi tanto quello, se ti ricordi, era entrato anche cosa, i due fratelli che avevano la riprivata, i capelli di Zatra. Uno si chiamava Gamma, l'altro Betta. Sui panni di un tetto è. Ehi, c'è ragione. È vero, ma io c'era proprio tonto di lo capo vino, Quello tonto, è tonto, ma stai scherzando, io l'ho frequentato, ma non perché ci uscivo, ho frequentato perché lui lavorava per l'ottoce con la Turettana. Capito? Io ero già in ESAF, lui era lì alla Turettana con l'ottoce. Grossissima azienda, un'azienda che ha fatto tutti i lavori, si può dire, idrici, non solo a Sassari ma a Salvelli. E lui era arrivato alla mansione perché diceva che era laureato, cazzo, boh, talmente tanto era laureato in giurisprudenza, non so cosa. Capisce la cosa, la vita era buongiorno, diceva Giovanna Maria Fiori, cazzo, va via di qua, mi dice, che come è fatto tu? E io sì, è vero. Due anni mi sembra che mancavano. Poi è salito. Comunque ti dico tipo l'altro che muoveva vicino a casa sua, quello era morto, quel tipo grasso. Muoveva vicino, che non mi ricordo se era morto per operazione per stringergli lo stomaco, ricordo lo stomaco. E c'era rimasto, c'era. Sì, che era sempre uguale, lui sarto Binghinuccio, già ho capito, e li conoscevo tutti quelli, io, come, e noi eravamo sempre qui, però non passa molto educatissimo, per carità, molto in gamba, però cazzo era pronto, perché mi aveva detto poi, quando io avevo chiesto, ma non c'è più Antonio, diciamo, è andato via, cazzo ha fatto danni allucinanti, lavorato le mansioni della fatturazione, seguire tutti i capitolati di appalto, andare alle gare di appalto eccetera, ma è anche un casino di giubilio, cosa, queste sono cose molto delicate. Lui diceva che aveva lavorato in giurisprudenza, che aveva già fatto tirocinio per avvocato, via là, ma ragazzi, aveva frequentato mi pare per 3 anni con due piano, poi si era ritirato, non so cosa aveva fatto dopo. E quello adesso lui è lì a Roma, Tomè, perché tramite amici ho fatto la campagna elettorale quando era allora presidente della regione Maropini e quindi ha conosciuto tutto il barone politico, Beppe, eccetera, eccetera, senza far fare nomi con noi, e una volta si è voluto andare a lavorare l'ufficio praticamente gabinetto di Mauro, no? Perché poi Mauro è andato a finire a Roma. Lui è andato così per comprare i carte dei Semprichivi. Ma io l'ho visto l'estate scorsa lì al Lido di Platanova e ci siamo parlati, salutati eccetera, e mi ha raccontato che non è più come prima, cioè se prima c'era un budget X, adesso vive con uno stipendietto, sta lì, i genitori sono sempre qua, quindi viene in ferie, però non è cazzo che c'è il Presidente della Repubblica, il Presidente è un buon modo, dice così. Dove tanti la poco io? Sarà tre settimane fa in via Lombardo mi sono a Piri. Tu non hai visto in macchina, no? Sono sicuro che no, perché manco la patente, non sono l'auto. Comunque lo prendo sempre a Piri. E non mi frequenta, spesso il bar del Ponte Nuovo. Frequentava, andava lì a bere. Ma mia aerolina ha fatto un telefono. diciamo che non ho fatto niente. Quando ho mangiato la prova non posso prima di venire, perché ho smontato la prova alla cimenteria, no? Ho smontato proprio stamattina e quindi ehi, ha detto, perché te mangiato il crudo, abbi di oggi. E poi ci facciamo mangiare il formaggio lì, erano molto ospitali, di accampamento. Cazzo, il Naguccio, proprio la chitarra. Veramente tanto era una forte fiesta. Sì, abbiamo detto a mangiare. Veramente uno dei... E sono venuti pari che non c'era Andrea. L'unica che mi sembra passata, lo ricordo sempre. Partirà e si già perdo immaginata dove la stessa in un giorno intanto si capando giù che facendo del pompino tra il nemico va là e a me te come ci va a terminare. Quello sì, ma allora non c'era problema di etilometro e di rompimenti di palle, la mia tutti cuci cosa io quando vado via la rete tu entravo in turno alla parapolese cazzo fatti voce a percorso con la DNC ci avevo, no? Non me la metto. C'è quella di amici, tu fatto sempre a un fumo, io già erano altri tempi, Antonio, dai, ci potevano fare certe cose, adesso sono stato attento, cazzo, basta una fronzata sia a piedi. Adesso mi sto ricordando ad Antonio quello che stavamo parlando prima, la patente li hanno presa perché aveva avuto un incidente nella Bundi Bundi. Infatti è rimasto un mese guasto, scioccato. Se ti ricordi c'era una cicatrice in alto, ti ricordi? Io un giorno scherzavo, mi ha detto, che fai dove è andato? Ha colpito il giacciabu. E me l'aveva raccontato, ma no, cazzo sono stato in coma, qui e là, aveva avuto un brutto incidente nella Budi Budi, dove mi pare che c'era scappato anche il morto. E da lì avevano preso la patente, non so per che cosa, non... O non ne ha più voluto lui, non ha più guidato comunque, non ha più guidato perché adesso mi ricordo era una storia molto, molto brutta e quindi è per quello che lui è sempre in trama. Ma questa cosa non l'ha mai accennato a me, io non lo ricordo. Lui proprio sempre a piedi, veniva sempre col tram, come aveva detto, c'è una macchina, aveva detto e... E perché poi mi dice, ma no, non c'ho la macchina, la uso poco, non c'ho soldi, mi ha detto per pagare l'assicurazione. Capito? Non è che mi ha detto questo fatto qua, forse magari l'ha portato solamente a te. Ma quello mi ha detto fu più di un tabù, ma cosa ne sento? Sì, sì, a me me l'aveva raccontato e anch'io stavo lì a punzecchiare, che fa c'è qualche dici, ma macchina non hai, allora me l'aveva detto. Mi ricordo, ma avevo letto una storia del genere, ho avuto un brutto incidente e quindi era successo un casino, eccetera. Anche perché, come avevo detto, anche perché la macchina non era mia, era di Babbo. E quindi era un po' scioccato, ma ci vedeva che era tutto l'Uzebedo e un po' da pallone ancora, anche adesso. Cazzo, poi se ti ricordi quando parlava, cazzo, tutto ti sputava, cazzo, ci aveva la lingua, cazzo, poi era un serpente, poi gli ho detto la cigaretta, cazzo, ti era in goddia. Senti. Ti ricordi, eh? Così c'era un figlio, il figlio delle cose. Quando arrivavo in CD arrivava Alessandro alle 8 del mattino, poi arrivava Antonio alle 20, poi arrivava Gesualdo Giallo, dopo Gesualdo Giallo arrivava Pierandrea arrivava Andrea Maricurmi, dopo Andrea Maricurmi arrivava... E insomma, tutta la mattina per vento, poi ci andavamo lì, si è seduto da Claudio. 9:10, a volte anche 10:12 abbiamo fatto tutti i punti. Come si chiama? Falcone, ancora c'è. Quello è cosa? A Susu e va. Già che non Falcone, come non ha bisogno di parlare bollette, chi sa che con i sempre? Mi avete tanta cagliata! Marino, bisogna che cosa, io dai, facci sentire. Canto com'è sta pugnettata, Certo, quando andavano quelli lupi si incazzavano, non voleva che entrava nessuno nel canale. Il canale è mio, è di... come si chiama? È di Marcolino. Il canale è mio, è di Marcolino, capito? Capito, ho detto, mia mamma me la piccolina, mi ha detto, venga qui, e ti dà un po' la grana, Ma non ti ho detto, io lo sto dicendo a te, cazzo, ci sono quelli lupi, non vuoi ci risiedi. Che continui che aveva, continui che non è quello del pinguino. Il cazzo esagerato, tu non vai a Lugas. Tu cercava la famiglia, cercava il tutto, perché ci vediamo qua. Ma l'ho tolto spesso l'attore. Un piscio è rimasto sempre uguale, Gas. È rimasto sempre uguale. Io non lo vedo, non è mai stato. Che veniva alla quarta volta a caricare l'acqua, capito? Adesso invece scendono direttamente, tutti gli autobotti scendono direttamente giù al ponte. Cazzo, Antonio era una cosa allucinante, perché te ne faceva uscire il cervello, cazzo. Era una cosa, mamma mia. Sì, adesso molto poco è sono San Sebastiano, che lo sai. C'è 4 mesi ne hanno fatto ancora da scontare. Ah, per quel fatto là? C'è un visto poco, non mi ha detto niente. Ma forse gli diranno gli arresti domiciliari. No, l'hanno picchiato un po' più da camino. Dopo che io un mese fa l'avevo visto io, perché sono andato vicino a casa sua, ce l'aveva tolto, che ne balzo su. E dopo 15 giorni l'ho visto il giornale, e poi ho fatto vedere la fotografia dove cosa. Quello che c'è il circolo giù al centro storico, sono sagittario, e tu mi ha la foto del pinguino, altri 4 mesi si può fare, c'è un'altra da scontare, ce l'ha fatto una fare a portare quella dopo nel cambio, imbecille è stato, c'è una lampa e lavoro e si è incasinato la vita per quella cazzata. Tutti vogliono provare il Sassuolo, tutti vogliono provare questo esperimento, ma se ti va bene, ma ci sta la mare, ma c'è la mare a Edo, c'è un volcano, tu mi piace, bello, si è messo a posto, e lei ci ha preso tutto, non lo so però questo, mi dispiace, e allora ecco che stavo aspettando l'appello, anche quindi era tranquillissimo perché c'era questa possibilità che archiviassero tutto, perché lui non sapeva niente, gli hanno aperto qua con la portale, e allora mi hanno chiesto di cocaina. Ok, era pigliato la maci. E invece gli hanno notificato gli altri 4 mesi. E vabbè, se li fa, pazienza. Ci ha passato l'impresa 4 mesi. Se no mi fate la domanda, gli mando un saino bianco che va a sera e lui ci fa delle 5 contro 1 fuori la guardia. Purtroppo. Purtroppo così, chi lo sapeva, non lo sapeva, purtroppo, dammi bene se per la ciapa. E cazzo, però, lui è stato un po' ingenuo, e mi meraviglia lui perché è una persona molto attenta, perlomeno per come ci siamo conosciuti noi, lo conosco una vita. Cazzo, tu mi hai un po' a me, cioè anch'io sono sempre in macchina, viaggio, mi sposto a destra e a sinistra, sai che io vado per le valigie, e io... in chi mi è sicuro, ma non porti carta così, ma lo fai, sì, apri, fammi vedere cosa c'è di buttare, non si può aprire, no, non te ne butti, vai tu, e se te lo butti tu, cazzo me la fai, ma lo apri, mi fa vedere che cosa devo portare, cosa sto portando, cosa so che cosa sto portando, cazzo lì è proprio dai genui, no, con tutto il casino che fa sempre, la malafede eccetera, allora, malafede, per malafede, poi mi ha preparato, mi fa vedere cosa c'è dentro, io te lo porto, se sono di 4 minuti, dopo che dormire, che te lo butto. Invece lui no, cazzo, allora, un pacco, ma me l'hanno me, c'è avanti chi dice, era, lo porto alla Olbia, prima, dentro a Olbia, all'imbarco, perché lui scaricava lì qualsiasi cosa, meglio che si veda con gli occhi tuoi, e non so cosa scherzare, purtroppo. È pasciccia, è andata, purtroppo così. Si conferma per domani, domani ci vediamo al caffè. Bene, bene, io la profitto alla canzone, dai, e anche io vedo montare presto domani. Ciao Tone, ciao Pugno, dai, tutte le migliori alle prossime. Aspetto i vostri richiami e poi faccio quelle di... Ciao, ciao Tone, ciao a tutti, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, altro ci sentiamo, buon coletto, buon tutto domani. A battitore. Saluto di Claudio, ma abbiamo chiuso un po' frappacco, è la catena, sì. Un po' frappacco. E io trattengo una troppo, 10-4 ore, poi anch'io. Devo frappaccare anch'io domani. Faccio una voletta. Sì, passi un attimo però, Come te mai? Devo anch'io una metà, se si può lasciarlo, adesso volta. Sì, infatti mi chiede che c'è, se tu ascolto molto più forte di te di audio, quindi tanto è bassa e alza. Faccio le cuffie, se no mi tirano qualche sacco di hamburger per qua. Scusa per ieri, perché mi hanno suonato il campanello e poi era una persona della via che aveva problemi, in antenna, non stava ricevendo quasi più niente, solo re 1, re 2, re 3. Poi gli ha analizzato la roba e c'ha problemi in antenna, sistemata così. Sì, se non solo re 1, re 2, re 3, in una terza vuol dire che la bomba stava funzionando. Lui dice così, a meno che non sta funzionando l'altra e una sì, l'altra no. Capita così a volte. Purtroppo con l'unicità internet è così. C'avevamo quella schifezza adesso. Prima sì, era anche fatto bene, si vedeva, adesso domani. C'aveva lì, in poche parole, ho ispezionato l'anticato, era arrugginito nella massa, la calza del campo appoggiava lì. Cavo tutto uscirato e glielo pulito un po', però il cavo è uscirato, devo analizzare l'antenna, ma glielo guardo male lì, gli ho tirato un po' il guadagno e poi vediamo le battute, ci entrava un po' segnale. E allora è questo il cavo, se il cavo è uscirato se ne mangia più la metà del segnale con digitale. Quindi era stato da sostituire e poi si era ucciso anche l'ingresso dove c'è il morfetto, ancora peggio. Ah, non era fare la posta, si è entrato la propria casa antenna e poi è così, ma meglio così almeno, riesci più lavoro, finito quello, quindi le mi faccio quelle, abbiamo perso già da me. Mi sono dicendo, non sono mio reti qui, meglio così. Almeno ti guadagni un po' di soldi in più. Ma poi lo faccio anche perché nella via lo sa. Ci siamo pochi adesso, siamo in tre e boh, fanno quelle cose. C'è Gianni, molto bravo, in antennistica, cioè, guarda, ce n'è un altro che è un salame proprio, ha fatto una scuola fuori, ma cazzo, proprio, cioè, ha fatto 100 miliardi di antenna che ma non ti dico niente. Sì, ce ne sono bravi, non bravi, a seconda delle... come spero, hanno detto, se ne fai, ne fai uno buono e basta, non è che puoi fare 50 lavori e uno di fretta è andato e non ne cavi i piedi, e tocca chiamare sempre la persona che è competente, capito? Per tappare il culo. Ma questo è proprio cambiato, cioè lui si tiene elettrotecnico, impatti ogni tubo, impianti stereo, autoradio, ma sinceramente non la capisce un cazzo, veramente. A prima lo chiamava molta gente, però poi, come l'hanno conosciuto, non sta chiamando quasi più nessuno. Allora, ne ha fatto uno nella via, gli piace l'antenna, e di solito qui basta anche una nuova ritmica, non è che questo granché di antenna, vabbè, ha messo un'antenna della Saccaro, quella è alto guadagno, la maggiore della Blu 90, adesso vi ricordo il nome dell'antenna, poi la antenna R1, 1 l'aveva messo tutto qua, il culo era molto basso, era troppo basso il valore che adesso, senza tirarsi, senza fare niente. Poi aveva sbagliato anche il tiraggio dell'antiscattore, cioè il guadagno, non era giusto, non era centrata manco l'antenna. E in più aveva messo uno spartitore che aveva ancora tutto sbagliato. Così non si fanno l'intervento tipo prima si va a il posto, si controlla come si come bene, la prima di fare il coso, di piazzare di sale l'antenna, se c'è anche la fricchia, e poi dai sette antenne a metterci, così non fai brutte figure, poi ci metti un amplificatore che sia non molto potente, ma schermato. Io che pensare uno di quegli amplificatori da 30 euro. E quando passa la macchina ti vedi le critiche del televisore, capito? Oppure ti amplifica da tutte le altre cattive che si chiama TV. Lui invece c'è così come si deve. Una volta fatto intanto bene, contribuente il cavolo di scesa, oppure il partitore, allora sei tranquillo, intanto non hai nessun problema. Tutto quello che capita è quello che inizia l'altra, ma non devo cambiare il capo, se tu pensiamo che magari che marcio non è il caro mezzo che sta cavando i piedi, capito? E effettivamente così te l'hanno allenato. No, quella poi gli risolto io il problema. Allora lui innanzitutto, quando quella persona gli ha finito l'impianto, niente, non c'era il controllo, c'era la qualità, andava anche bene. Però il segnale proprio era scarso, si può dire, il segnale, non ce n'era, tu figura, si è attaccato un bel palo, nel messaggio, l'ho saldato, e ho messo i tiranti, l'ho portata su, gli ho messo un bel amplificatore della sub-elettronica che ho preso, poi del resto gli ho messo quello spartitore bene com'è, come doveva essere messo, ma il segnale era perfetto. Visto, qua stanza ci sono i certi punti che hanno il sole, che anche se piatti in antenna A, ci ho parlato di fronte non pigliava accidente, ti devi saper giocare. Capito? Tipo un prolungamento di via Pulizetta che arriva a un certo punto che è inviato, invece Ponte Nuovo, dopo di te ci prende in discesa, quello è il punto più scattato che c'è, a parte il centro storico. Ma qui ce ne sono punti negativi, allora, peggiore, non so se conosciti, è la Tegola si chiama, ed è Giune di Fornitore, proprio nella vallata giù, andando verso la Tra di Chiesi. Di lì è tutto negativo proprio, molto negativo, va bene. Ormai accendiamo il decoder con la parabola, no? Quello che vedi in digitale terrestre, quello in zone negative, metti quello. Certo, c'è quello, c'è sul passante, quello che se non mi ricordo male, c'è tutto la sette, la RAI, la FINIM, tutto questo assieme, non c'è più Marco, quindi uno si tratta a quello. Dice per quello che vuole, non c'è un problema, tranne i programmi tipo TNG, cosa del genere, che questi non li vengono manco molti. Qua TNG si vuole per miracolo, figurati, sono nei paesi pago si vede. Ma che cosa Ale? Non ho capito. TNG non è città attraverso. Antenna 1 per dire, sono aspettate le TV piccoline, non c'erano molti soldi per poter piazzare ripetitori in tutti i posti, quindi in certi punti fuori stanza tipo la vita, anche nei punti c'erano dei problemi di ricezione, per poterlo vedere. Ah, ho capito, cioè certe emittenti piccole non ci vedo. Oh, l'antenna 1 già non la vedo qui. Sicuramente sarà un emittente che non è grande, magari è nella zona di Sassari poi. E io quando guardo, adesso ho fatto una ricerca, ultimamente, quindi aveva 170 canali, 173, e dopo patente qua antenna che risulta un po' più in basso, 170. Se volete montare lo vedete, leggi almeno uno, poi c'è il canale, aspetta come si chiama quell'altro, c'è solo che ho quattro sassoni di TV, davvero che non lo ricordo come è, comunque sono emittenti piccoline, capito? Non è che hanno questa parte di pubblicità, quindi non è che possono stampare così tanto. E magari mi interessa più gli assassini con le emittenti della vostra città. Allora qui già lo sa dove ci puntano, quindi quando entrano quei canali è a voi. Poi salendo verso l'ospedale, se punti lì verso Alghero, ricevi anche le emittenti algherese, altre cose, capito? Sicuramente anche quelle di Sassari, eh? Beh, sento. Se voi ci avete fatto un parola di libero lì, come ripetitore, Montero mi sembra che solo il mio puntante lì ti rispondo, questa appena puntante lì, e basta. Effettivamente, quando si dice, nei punti più alti lì, allora riceve, e poi anche per gli abitanti d'Alghero e altri posti, però Nardo Mammassa, non ce n'è. Quando ti entrano 170 canali va benissimo, no? A voi. Sì, anche per riporci ce ne fatto che ci sia. Non ho parlato con tutti i limiti italiani TV che ci sono quelli fino intorno. E un nuovo dopo tutti vince e a tutti vince. Ma sai che mi è capitato di prendere di quel cazzo di decoder digitale terrestri? Con i punti degli ipermercati, roba così, no? E ho preso con la carta posso subire di Mediaset, di quelle prepagate, ma me l'hanno mai attivate. Come l'hanno mai attivata? Ogni volta che telefonavo gli dare i codici, tutto qua, tutto regolare quello che c'è scritto, ma le attivate perché volevano, in poche parole, che tu facessi almeno l'abbonamento per un anno, no? Oltre a questo post-pay, che la scheda c'era 37 euro, tu dovevi aprirti un conto postale o come si chiama? Sbagliatura, ha riccato. Se vuoi vedere devi fare così. Ho capito. Quindi è un casino. È un casino, non so così meglio la andare a fanculo. Se no, fanno abbonamento di tutti. Io vorrei che sia un anno giusto, io so che loro fanno, noi facciamo da oggi, da maggio a maggio, ma loro fanno da gennaio a gennaio, ti rotteranno sempre 3-4 mesi in più, a volte capito. Tutto a fare, però va bene, cioè vedo queste cose ingannevoli, ma per fortuna mi sono recuperato il digitale almeno. E quando capita qualche cliente ce l'ha danneggiato, ti cambio e buon viaggio, solo per quello. O chi ha la televisione nuova, ci sta la tribù con il digitale terrestre incorporato, buon viaggio. Adesso se la fregatura di DCD ti saranno poco fatto per fare i fuori perché sono anche gli ultimi televisori a LED, quindi ormai le DCD è la campanale. Poi con la plasma per tanto, sono diverse, ci sono quelle a LED, e magari fra 5-6 anni ti lampano nuova. Quanto ho sentito, stanno costruendo di nuovo i televisori al tubo con il digitale terrestre, molte altre nazioni europee, ci vuole richiesto di più. Vabbè. I televisori al tubo rimangono tutti in Africa, già lo sai, adesso ci sono, il mercato siccome è stato, rimangono tutti in Africa questi, quei televisori con digitale terrestre, perché là è come se l'avessero visto una volta, quelli al tubo, mi sai quanti ne mandano, un bel po', lì tutto ci trovi, anche in Pakistan, quelli vecchi, per dire. Cappa. Comunque ognuno, ho qui a casa qui, non ne ho televisione nuova, ce l'ho al tubo, ecco di colore separato. Mi trovo bene così, tutti e due. C'è un Grundy che è giù 60 Hz, no, o 50 Hz, adesso non mi ricordo bene, vabbè, io lo vedo benissimo. Su c'è un Mivar, l'M28, io due passano là. Io vedo qui il Mivar 14 pollici, M8 c'ho qua. Non potevo abbassare. Non ho ancora messo a posto, non fate niente. Questa cosa lo uso per pezzi. I 400 mi sono saliti. Sta portando la vetta. Aspetta un po', ho preso l'ultima rivista di OGQ, è nuova, cioè un lineare che ti voglio dire che valvola monta. Per la frequenza sicuramente radio avrà bene. Se ti interessa, adesso lo stanno a passo prezzo. Io sono curioso, però fammi militare, eh. No, vabbè, perché mi siete lineare 3FM. Mi basta uscire con 40 watt per i problemi più che altro. Poi in seguito c'è un polizio dove compro un bel VU da pensare a casa, un paio di portate in LPD se poter fare il tantino anche nel fastboard, e allora ho finito di comprare roba di baracchini, non aspetto più soldi così, quindi mangio bistecche, mi diverto di più e me lo devo in chiesa. No, era tanto per sapere se in base conosci quel tipo di valvole. Comunque no, non è un lineare solo in FM, c'è le bande anche, capito? Oh, infatti non so se roba sul plus, come si dorme di che drittare? Senza roba sul plus. Se vuoi valvole militari già ti porto da un amico che ce l'ha, c'è anche transistor per V, per U. Di qua ce ne sono 300, 400 watt di transistor. Ce li ha tutti nel laboratorio suo, capito? Se li vende a uno, se qualcuno serve, non glieli vende. Spendo i secondi, Ari, prendo la rivista. E poi ti devo dire anche di un VFO di un apparato, che magari tu riesci a, boh, a chiedere a qualcuno se ce l'hanno, capito? Sì, invece sono qua. Allora, l'apparato che mi hanno detto controllare questo UFO, mi ha detto FM, che dovrebbe essere FM220, è uno standard C828 MW. Importante, mi sono trattando, diciamo, degli apparecchi standard, erano portati, erano proprio anche dell'Enel. Non so se sia importante, ma sai, ho chiesto informazioni, perché me l'hanno detto di cercare questo VFO, ma allora, me l'hanno detto che non ha fatto di 20 anni, poi non so dirvi se sia importante. Allora dobbiamo farlo, se c'è il VFO dobbiamo farlo, senz'altro, deve essere un antico deve essere. Infatti ho provato lì, adesso dovrei controllare il computer se trovo la cosa. Adesso vedo questo lineare, questo tipo, il modello della valvola, se per caso la conosci. Sì, valvole di lineare per frequenze, materiali, magari c'è la cosa, c'è la Mario Fighi, senz'altro, io lo chiedo. Se lui va con le geniali di roba per FM, per trasferimento punti, UHF, V, gli ha la roba, l'assisto. Ora, guarda, quando cerchi la roba, ho visto questa rivista. Ma adesso, allora, lì, la valvola è successiva, 4GX250. valvola non in dotazione, c'è scritto 4X o la 150A o 4CX250. L'ho già sentita questa valvola, se mi ricordo mai la montata al Kimbot, il piede del 921 mi sembra una volta. C'è scritto potente, è uscito 300 watt in banda SSB, o in lineare da 50 ai 100 MHz, questo ma si potrebbe modificare? Penso di sì, bisognerebbe una valvola quando anche frequentate di zona. Penso che si possa modificare comunque. Ovvero, perché questa volta la Milag, che di solito quando dà questi prodotti tipo surplus, ma qui li mette a basso costo, ma sono buoni, eh? Beh, se sono soprattutto da basso surplus, a basso costo, sono tutti quanti voi, se sono addirittura portati i militari, quelli verdi, sono belli, c'hanno l'antenna sembra pista di cane. Mi caso questo, ma vedo un po' di questo lineare così, modifico e vediamo un po' cosa ne esce. Da 50 a 100 sicuramente ci farà qualcosa, ne uscirà così. Bisogna che c'è, domani se senta caldo io chiedo che va a voler montare che le ho visto due, se mi ricordo male mi ha detto la CX o la X, una cosa del genere mi ha detto. Sull'altro, allora ho guardato su un'altra rivista, su CQ Elettronica, queste valvole, allora c'avevano invece della 250, c'avevano la 4CX350, mi ha spiegato tutto il tipo, e non ce la va più però. Poi ce n'è uno di quarto Sant'Elena che ce le ha proprio queste valvole, le CX, le 250, però non ci ha lasciato il numero di telefono, si può dire. Capito. Vedi anche che frequenza vanno con le valvole. Se c'è un ampio spettro ti puoi giocare tranquillamente. Ma la modifica va portata su delle bobine da coro dentro o non c'è bisogno? No, devi modificare le bobine. Sicuramente c'è una bobina sfidata, è ben costruita, sono costa. Vediamo, se ne vale la pena, se no buon viaggio. Sto dicendo perché ho chiesto a uno che ha un bel lineare come una valvola, mi ha detto per modificarla in un'altra frequenza doveva fare le bobine nuove, capito? Non è parlato di cambiare valvola, dice non per la valvola dice questa fa questa frequenza e questa frequenza, perché c'è tutti i libri, capito? Ogni valvola ti segnala, per esempio, parte dai 26 ai 28, oppure dai 26 ai 30, capito? Oppure parte dai 100 MHz per dire fino a 170, allora ti fa tutta il comparto della frequenza VHF per dire, oppure quella che va in U. Mi apre che frequenza fa, se fa tutta la banda VHF si può usare tranquillamente in V, se invece parte per dire da 2 MHz fino ai 30 MHz con la bomba la puoi usare anche per la 27. Io ho dovuto parlare, sapere, ma se la barba è stata scintilla, di che frequenza lavora, dai, ho capito. Qui c'è scritto comunque 150 e 100 MHz e basta, nel lineare. Non sono con le valvole, sicuramente non ci sono mai state. Allora, per questa volta è con le valvole, senz'altro. Se fai 150 MHz di un'altra di banda, ma tutta per questa volta F. Poi io sto leggendo questo che ci hanno scritto questi, c'è scritto l'ideale 50 e 100, poi non è detto che magari la valvola ci vuole in altro posto, magari visto il coso della tascina della valvola poi cambiare le bobine e poi portarlo nel 27. Però vedi che la vuole anche sulla 27, magari farà per dire dai 10 MHz fino ai 150 MHz, allora, però magari per darti proprio i watt che lavori bene, allora c'è la frequenza sua, capito? magari ne avete 7 dei lati, 30, 40 volte in meno, o 50 volte in meno. Va bene, lo stesso, cosa te ne frega, basta che risuoni. Perché le famiglie ti avevo dato un lineare da un kilowatt di lo stesso di un trasmettitore radio, però era di quello della DD, e c'era una Limac, una valvola ceramica, era costruito bene, solo che lavorava dagli 88 ai 108 e comunque l'hanno sistemato questo lineare, sono riusciti a farlo lavorare con le frequenze, però ha perso metà potenza, diciamo, invece di per dire un kilowatt era 2500. E è riuscito a utilizzarlo lo stesso, ha fatto bene, c'è solo valvoloni in Belgio, solo basta andare alla Rai, a Monteoro, a fregare quei boccioli del vino. Sì, lasceranno sicuramente qualche cabina, no? Non li tengono fuori. Ho dentro la cabina sono. C'è un altro pelletraio con un amico. Mi ha proprio detto, cazzo, mia valvola. Raffreddate a coso, con quel distratore d'aria, a olio, anzi, addirittura. Un po' di vino sembravano quelle valvole, pelle, fiammanti, nuove. Valvole ce ne sono, sì, sai che le ho lette, gente che le cerca con le valvole, ma sono in bande televisive o cosa? No, è una radio, aspetta, ma però c'è quella della alta lunga che parte da terra, lì sono tutte, sono tante valvole per quella serpente non decotte, capito? Non mi aspetta la RAI. Quelle ma lì sono valvole serie, però per darti così bello era, ma poi non sono mai andato, la verità, ho messo qua caldo, mi ha detto un giorno che io salì con me, andiamo a Monte, a fare che cosa, dice, per fare le lampadine, vai, sai, gli ho detto, sopra le petite non ci sta pure, Marco, se ti ammazzi. Ma cambiare le lampadine, per vederle, poco fa aereo è andato qua. E allora, gli ho detto vai, mandaci a Fabrizio, vai. E Alessandro, io non ci salgo lì, se non ci salgo da sopra, dove vengo a divertirsi, vado io so. E tu ci sali tu, se ci vuoi salire, io lo guardo. Ma così mi dai 200 euro ci salgo. E per cui che fa cambiare la palina, ne vale la pena, ragazzi. E appunto, non ci sono mai salito io, c'è andato Fabrizio, quello sì. Si metteva, si è messo le corde, l'imbarcatura, e è andato a cambiarle. Io non ci sono andato. Ci ho fatto salire lui, si sono giati loro due, sono mancati quasi 2 ore e mezzo, figurati. Quanto sarà alto quel tragico? Io penso almeno un 30 metri sarà alto, 25-30 metri. Ce n'è altre, no? A parte dovete fare, ce ne sono altri 30 o 40 mi pare di quella che ci è sembrato io. Vabbè, uno dovrebbe più che divertirsi, ma ci vuole sempre la cintura di sicurezza e qua lì. Pure potremmo fare una tipo una scalina anche in queste tralicci, no? Mi sa che in quello che c'è lì di su c'è la tipo una gradina. Non sono mai capace io nei ripetitori, comunque a volte è così, so che c'è, dove c'è il pattuglio, si sale con la qualcosa, non mi ricordo adesso, invece da lì dove c'è il caliccio si deve salire per forza, c'è la scalinata e poi ti deve agganciare, capito? Perché è fatto a triangolo. Ah, ho capito. Sì. Non ne valeva la pena fare certe cose, per uno è, non soffre di vertigini, è giovane magari, può trattare, ma poi per cosa? Mi scavita per un po' di lampadina, cazzo. E poi per quello io non ci sono andato. E la gente, Io l'unica cosa che l'ho visto è quello che c'è in terra, giù a San Giovanni, e basta. Poi dentro a Montero, lì a Montero sotto non ci sono salito, sotto l'ho visto, ci sono le guardie, e un giorno gli ho fatto compagnia e mi sono rimasto in macchina, e salite voi e vendetevi. E lì c'è varia attrezzatura, lavora diversamente, lì, poi se non ce lo può permettere la RAI, quelle cose. Io ho una rivista di proprio quella dei radioamatori, che c'è un tipo che faceva manutenzione nel rancio della RAI, mi sa che a Roma, o qui sia a Milano, in punta di tutto e va lì. Ma si vedi che le case manco ci vedo. Io non ci sarei neanche salito. Di solito sono tavoli indiani che ci vanno, perché quelli costruiti vanno a costruire in realtà cieli che sono alti 100-200 metri. E io, a questa slicca, non ci salgo. E infatti, mi piace temere qualche palazzo anche. Cioè, se il palazzo c'è tranquillo a andare, e c'è da stare attenti anche a piazzare le antenne giuste, non è? Basta anche il caldo, una giornata negata, è un casino mio. Io sono andato a pensare un'antenna, dove c'è il cattacielo di Piazza Castello, sì. Quello bello alto, dove sono tutti quei ripetitori sopra. Lì sono andato a pensare anche alla televisione. Se era un coso, un vento sopra. A parte il vento, poi cominciava a vedere questa cosa. Questa cosa non sono cotto io. Mi vedo che mi spostavo di un centimetro da un parte, un centimetro dall'altra. Al vento? E non ho detto, quel fatto oscillare. Io pensavo che era il bello rigido, un cazzo. Ho fatto uscita, c'è uno sporcamento di almeno un centimetro, ma due centimetri dall'altra. Ah sì, oscilla perché se è rigido dovrebbe oscillare qualcosina. Sì, uscita quel palazzo, io sono sentito sopra e ho visto che oscilla, altro che noi. Oscilla parecchio quel palazzo. No, molto molto, però oscilla per forza, se non devi parare io se si vada. E mi raccomando che sia con la testa del tiro, accendendo quel palazzo per lì. Raga, se l'ha fatto anti sisma, c'è la testa sicuramente sarà costruiti così per criterio, se no c'è rigido un casino, sì. Sì, infatti. No, c'è un cemento armato sopra, l'ho visto. C'è la stazione d'aria, c'è. Sull'ultimo piano hanno buttato giù un coso e hanno messo i pezzettalici. Capito? Adesso lo stanno sistemando. C'è il cantiere sopra, cioè, stanno sistemando tutte le antenne, vedete, stanno mettendo tutte a norma. Logico. Già va bene, se ci vuole coraggio. Io prima, quando lavoravo a Milano, salivo palazzi per fare facciate di palazzi proprio. Dal set, quando ero giovane no, magari non c'è il senso del rischio, tutto quanto non temevo niente. Adesso invece sta salendo certi punti così, no, non salite così libero là. Beh, la vecchiaia perché quando c'hai 15, 16 anni, 20 anni che ne batti le palle, sali su e non ti minuta, pure quando cominci ad arrivare 40, 45 la cosa è un po' critica, dici cazzo, adesso sto già tenendo, prima non ne batteva nulla, e avanti in me. Anche giusto, c'è così, perché anche così sei pure più maturo, perché se non dico, basta niente, ci può capitare sempre qualcosa. Sì, no, per prima i moratori la mattina devono almeno qualcosa, adesso faccio poi un accidente, quindi ti viene un po' di, ma perché ci deve la cagarella adesso, capito? quando cominciava a piazzare i cosi, i, come si chiama? Mi viene in mente il nome adesso. Da appena all'alto. Sì, il ponteggio, quando si comincia a trovare il ponteggio, perché vedete che si sta creando adesso. E ora ci vuole il mattutino per fare il ponteggio. E poi ci sono le altezze, in certe altezze che devi fare i ponteggi bisogna. Cioè non puoi mettere solo gli elementi normali, no, capito? Ci sono regole, prima invece non c'era niente. Prima non c'è altro. Ma che giusto sia così, uno deve essere competente, ma per fare i conteggi e tutto qua. E sicurezza adesso controlla molte cose. Purtroppo ci vuole anche quello. È una volta dei cantieri lì ci vuole, sì. Perché mai se battevano le balle, se arrivano nel ponteggio, camminavano, non è mai visto i ponteggi che non sono fissati. A quarto, quinto piano, quando cammini comincia a oscillare. Io l'ho visto, anzi se sono salito con quei ponteggi, quando ho fatto le. Stavano sistemando le case della CP che ci sono osservato, sono andato al quinto piano, e questo ponteggio era manco attaccato al muro. Figurati, oscillava, non salivo sopra e cominciava a oscillare, ho detto, come la vede, non mi si piove. Anche a me già mi è capitato di salire ponteggi così, ma anche così era da malato. No, tanto di lì ancora non ci vuole. Te lo ancora alle finestre, o li metti proprio i tiranti che vanno fissati al muro. Prima preghiero c'erano le palazzine lì, lavoravo e lo stesso ci faceva senza curati. Io ci salivo, se sto dicendo, perché prima non sapevo, però cioè, se uno un po' che soffre di vertigini, si scende giù, oltretutto queste cose scendono a botte anche così, Sì, se fa vento è tutto quello che potrei sopportare via, secondo che punto sì. No, quelle sono cose che non, come regola, prima le facevano e cioè, certe persone maestri che un po' imbecilli dicevano quanto non sentimi dei cue per dire, ma non sentimi dei cue, non si può ancora giocare su quelle cose. Vabbè, mi ricordo a Milano che aveva fatto questa facciata in questo palazzo, facevano la facciata, il ponteggio è tutto ancorato, è fatto giusto tutto quanto, vabbè. Fatto sta mio fratello cosa ha fatto? Invece di scendere il ponteggio, vabbè, scendeva a 2,5, a 3, lo caricava il motore, da scendere. Cosa ha fatto lui? Mi ha levato le colazioni di minimo 3,5, no, alla volta. Lo sai il ponteggio l'ha fatto proprio più fallente? Il direttore che caricava il ponteggio così, se non c'è il colaccio. E lui cosa ha fatto? Per fare veloce, no? Caricava il motore e ci sono ancora 4 più elementi. E quasi quasi ne erano levati tutto. No, ho visto il ponteggio che ha scoricato verso proprio Mola Caverna. No. A Mola, mi sono messo a logica. Ma guarda tu sei fatto. Era ancora tutto e scendi le elementi a poco a pochi. Ma ne carichi 2, 1 e magari mi sei tutto a 2. E gli atti anche le mani, ma col concorso ce la fai a scendere. Voi ci sono quelle scaline adesso, in questi ponteggi. Prima c'erano le scale normali, adesso ci sono queste scalinette piccoline che si agganciano nel ponteggio. Poi ci sono i cosi, le bottole. Prima bottole non ce n'erano, se lascia bottole si va di osso. No, ma adesso sono con le bottiglie, poi le pedane sono il ferro o l'alluminio. Non mi manca quello di usare. Così si vuole qua lì. E poi ci vuole i parapetti tutto qua. Anche i parapetti, lo ricordi, dove ci vuole mettere al crocco, dove no? che parapetti già li conosci sicuramente con l'occhio niente, anzi ho visto anche gente salire, a posto di salire dall'interno del coso, passava all'esterno, si faceva prima e seconda, adesso piano direttamente all'esterno salendo, come i gatti. Un po' peggio, una volta che fai un top che ci mi ricorda la testa, vuole riportare. Invece noi la facevamo ponteggi allucinati, con elementi giusti, da malattia. Ponteggi può cedere sotto proprio, ma la porta dal peso stesso del ponte che c'ha, la c'è l'altezza e ci piega come niente. Vabbè, già è ferro, non è ferro, è cosa quella? A voi che già tengo qui tubi, sono luci, tubi lucenti, so, tubi di luci, e appena va poco già. Ma lei ce ne tu per dire, fai in un palazzo che ci peri tutti quattro esattamente per dire, già non sono i loro, i piccoli. Beh, ci vanno due piani forzati senz'altro, luci con dal peso, quando cominci a mettere uno, due, tre, quattro, cinque piani, se non c'è bombardamento ti va tutto gli osso. Così purtroppo. Ma vedo che c'è queste norme così, prima no, troppe minchia, poi molta gente già è morta, già così, anche Sardegna già se ne segue. Io mi attenzione, l'anno scorso fatto un lavoro in una villa qui a Ittiri, ingresso del paese, e c'era il ponte così, l'abbiamo fatto sì, è tipo. Voleva non accolarlo così, i baracchetti non ce ne ha, ma no, io salgo il mondo, vediamo baracchetti, accogliamo tutto. Ma che fa di vende? No, non puoi dire. Non sei sicuro, fa. Succede qualcosa che è finito di lavorare. Il discorso è quello, non è questione di temere. Adesso ti fermano il cantiere e sei fregato. Quindi chi inizia a lavori così in nero, succede qualcosa, mai succede qualcosa. Tu in galera finisci. E il padrone della guida si può anche indennizzare, è finito di lavorare per sempre, capito? Ma questo lo sai cos'era? Allora, siccome questi sono già impresari per dire, vabbè, e dovranno fare questo lavoro, io ho un altro maestro, un amico che ha fatto, e vabbè, abbiamo fatto il ponte tutto quanto, però lui non voleva neanche un altro metri così. Perché era all'interno di un terreno proprio dove si può in chiuso con i blocchetti c'è il cancello, quindi non è che ci prende controllo quando c'è, però io metto io stesso, no, mettiamo tutto giusto lì, perché cioè, in più dovevamo prendere di pietra, perché abbiamo riscritto dove questa villa con le pietre e tutto quanto, no? Ho detto voglio c'è sicuro io, qui c'è un lavoro, prendo una pietra, mi giro, mi muovo e lo c'è sicuro. Adesso bisogna essere accurati bene, bisogna fare i lavori. Gli antennisti devono fare così adesso, capito? Se vai sopra il petto perché ci devi più facile al petto, no? Si fa il lavoro e basta. Se devi piazzare il battepano in qualche punto dove non ci arrivi, allora ci vuole il conteggio. O se no la scala aerea. Perché se il petto è quello che non c'è molto, non lo passi. Non puoi fare il pantano. Sì, vale, così è. Ma spiegami una cosa, dato che magari tu ne sei più di me. Questo è un dubbio che sta salendo, no? Se capita per dire, cioè che tu sei in una casa bassa, no? Per esempio tu c'hai una casa più bassa. E davanti c'hai un palazzo più alto, molto più alto della tua casa. Il segnale ti arriva in una direzione tipo cioè sei coperto proprio dal segnale, tu potresti mettere l'antenna nella facciata della casa di fronte? Sì, c'è la piazzale, ci sono dei tipi ministeriali, insomma c'è una fotocopia qui e te la dura quando sali, così te la fai un po' di coppie. Se per caso uno ti dice che non vuole piazzarla, sali con quella, chiama i carabinieri e a voler si installi durante la TV. E sta anche zitto. Questo ne stavamo parlando con mio fratello, in continente. Beh, erano increduli oggi, perché io lo sapevo, cioè, lo puoi piazzare. Lui insisteva Allora, come il ponticchio che gli ho detto che ormai ci vuole patentino, e lui diceva di no. Ecco, la stessa cosa è per il palo dell'antenna, gli ho detto io, se uno non c'è il segnale, per legge è obbligato a illuminare il sistema di no. Voleva scommettere. È la stessa cosa anche per il palazzino, uguale, lo stesso decreto ministeriale. Capito? Si chiamano aerei collettivi, si chiamano, non si chiamano antenne, si chiamano aerei collettivi. E in pratica se tu c'hai un palazzo più alto di te e tu, per esempio, nel palazzo tuo non puoi installare l'antenna, allora automaticamente la puoi installare nel palazzo di fronte. Capito? Basta che fai mettere gli accolaggi per le... fai l'impianto la norma, con la massa terra e tutto quello che vuoi. No, vale, ho capito. No, ma io già lo sapevo. Cioè, ero convinto che era così. Che è così. E come cazzo facevo? Altro rimedio lo vedo la mente. Sì, noi che tu fai la moda vecchia, lo compri 15 metri di palo, telescopico, piazzi 12 tiranti, al momento che tu sei che magari arriva con quel palo di palo di terra, fai la nuova qualche macchina. Inutile, capito, avere 15 metri di palo quando cosa guadagnato, per dire, con 15 metri sei più alto del palazzo di 2-3 metri, piazzi l'antenna vedi benissimo, però al momento che non devi fare tutto in terra. Ma qua c'è cioè, una cosa che non potresti fare, meno che, cioè al limite, così immediatamente una parabola, come stavamo parlando, con la parabola potresti risolvere il problema, solo in quella maniera. Solo in quella maniera, sì. Poi per fare il limite di digitare la parabola con i su Intelsat e ti guardi tutti i programmi digitali terrestri. Ti vedi tutti, c'è la 7, la Fininvest, tutti i programmi RAI, i Sat Premium, tutto, eccetera, eccetera. Capito? Se quello invece ti fa piazzare l'antenna nel palazzo di fronte, è meglio così, si fa la calata delle... si piazza l'antenna in qualcosa e poi ti fa la calata e devi mettere giù l'amplificatore, basta. E gaffali, così è, ebbene, o certe volte magari spesso ci sono linghiere, magari ti metti delle gaffe a linghiera, o anche saldate, cioè c'è sempre segnale libero. Probabilmente ci vogliamo anche pistola in linea, perché se vedo con i servizi di cavo dall'amplificatore antenna di su, che è più la perdita di segnale, qui ci vuole l'amplificatore in linea, prima dopo l'amplificatore normale, se no si fa il gatto. Perché c'è troppo cavo e per quello no? Esatto, sì. C'è la fermi. Quello sì. Grazie, no, mio fratello insiste. Che non era così. Poi, tanto non è così. È così. Perché qui quando capita di farlo antenne, in certi casi che sono più alte, di solito le antenne vecchie erano sempre piazzate nel punto più alto. Cioè, logicamente io, anche se per dire, vado lì e vedo che c'è il palo, le gaffe marce, tutto quanto, non c'è il resto dell'antenna, che ho anche il permesso, guardi signora, l'antenna non c'è il proprio, devo forare lì per forza dove arriva. Vabbè, devi fare così per forza. Comunque c'è il decreto ministeriale, quando passi qui ti fai la fotocopia e te lo porti via uno di quelli. Capito? E così sei più tranquillo, se per caso non ti vieta no, si va qualcosa e dice no, a me mi io l'antenna è stato lo stesso. Se lo tenete ai carabinieri, fate riunione condominiale, e passo di fronte, e così che io sono stato chiamato, siccome il lavoro lo faccio e pago le tasse e basta, lo devi fare per forza, lo fai a norma naturalmente e sei tranquillo. Poi mi è capitato un'altra casa, cazzo, mi vedi qualcosa, guarda, sempre in questa via, c'era un'antenna già installata da un'altra tennista, nel punto, nel muro più alto della vicina, questo aveva chiesto un permesso, no? Aveva chiesto un permesso, ma lei è uscito. Ma ha fatto sta che un giorno è scesa qui e non vedeva più niente. Vabbè, sono andato di là, di domani, controllo tutto qua, l'amplificatore è partito. Cosa ho fatto? Ho cambiato solo quello e l'ho lasciata lì. Tanto invece questa donna, proprio vicino, anche no, scendi là di lì, perché l'antenna mi disturba, non so, devo, cioè, voleva per forza levato. Cosa ha fatto fare? Vabbè, e io le ho detto, guardi che l'antenna non mi ha fatto toccata, l'aveva messa già la tenista lì, mi ha chiesto il permesso, tutto qua. Ma tu sai che non l'ha fatta scendere, l'ho messa in un altro punto. Sì, ha detto dici, penso mentolte, capito? Sono quelle che magari pesticciano per cercare, diceva se ne faccio tornare e così lo per la televisione. Sono gente ignorante, capito? Se capita sempre così. Sono gente ignorante secondo dove va il calare le antenne. Non capiscono proprio una fanculo. Poi magari gli punti anche la televisione in casa su, oh, non me la punti lì perché io vado male. Di questa crocetta l'antenna si leverà male, boh. Ignorante, allucinante, veramente. È così. Ma capita, ma voi di qui nella via, e voi che per le 95.000, sa la gente, mamma mia, e voi che non li sopporto, allucinati sono. Sì, lo dico a me, quando ne piazza l'antenna di baracchino, ho dovuto pizzicare con i condomini, sull'aerea, per poter installare. Diciamo se per stato chiamato io sono il tecnico, quindi a me non me ne frega niente se voi avete problemi per cose vostre. Io sono venuto qui e installo, se no che americano lui sono problemi vostri, a me non me ne frega niente. No, la installi pure. Allora tu puoi installare l'acqua, se no voi siete a prendere poco e non installare più niente. E sì, è così proprio, certe volte l'ignorata regna. E poi vedi, ti dei conti, vai, analizzi, i problemi ce li hanno loro. Io ci faccio un'altra domanda, lì. Facendo l'ipotesi allora, tu c'hai l'apparato in concessione, tutto quanto, tutto in regola, anche un CB per dire, là. Lasciamo perdere un radiatore. Ma fin da che c'è un CB. Ecco, uno ha il problema, cioè in antenna sua si può dire, e tu li rientri per tipo hai. Però l'impianto antenna tu è tutto quanto giusto, tutto quanto regola. Prendono il controllo dell'escoradio, cosa fa? Controlla te e anche lui? Sì, controlla in pratica prima a te e poi controlla l'impianto. Se loro hanno un amplificatore che più, che non è a norma, che piglia tutta la mondetta del regolare, la butta la mettono a loro. Però è molto difficile che ci venga adesso, perché chiamare ci vogliono 500 euro, se no poi ci vengono. Adesso li vogliamo pagarli. Se ce l'hanno messo e non è esposto, ci passerà quel mese e mezzo, e dopo il mese e mezzo ti fanno le misurazioni prima a te e poi alla contro l'impianto non ce l'hanno. Se non ce l'hanno un amplificatore a norma, un impianto a norma per dire TV con la massa a terra, allora sono problemi loro. Adesso le leggi sono cambiate, sono tutte le leggi europee. Per non vedere la TV oppure il malattino ci vuole la massa a terra. Il cavo della massa a terra collegato direttamente giù al palazzo. Capito? Quindi, anche avendo problemi, fa finta, antenne vecchie, amplificatore arrugginiti, i casi sono loro, così? Esatto. È meglio così a sapersi. Ma qui insistono sempre la colpa dell'apparato, la colpa del macchino. Ma ti ho detto, ma io non c'ho poco da... Chiamate chi volete, sempre ci vengo, comunque gli ho detto così. Se lo vogliono fare a me non mi interessa niente. Poi, il resto, se il barbaro metta loro, mezzo grazie. Se la concessione ce l'hai, se a posto di concessione è la parecchia norma, non c'è nessuna originale, tu mi sono solo il cuscino, non ti preoccupare, i problemi sono di quello là. Esatto. Oltretutto, tirare gli amplificatori a massimo, anche quello è regolare. l'amplificatore vengono al minimo, perché proprio che c'è del segnale, se lo metti al massimo perché amplifica tutto l'ammonizione e rende avvicinato. E non può amplificarlo perché fa la saturazione, capito? Poi ci sono quegli amplificatori che pensano a proprio il segnale TV, mettono altre porcherie, già lo sai anche tu. Come mi è capitato lo stesso analizzando l'impianto antenna del vicino, ha fatto l'impianto antenna, ho detto che stai dicendo l'ha fatto in questa casa, caso mi ha sbagliato tutto, gli ho fatto di lì, gli ha messo una logaritmica e un amplificatino della Francarlo per la logaritmica lo stesso con il guadagno regolato. Effettivamente cazzo, ho notato che rientra un po' più watt anche, superavo i 10 watt e rientravo. Quanto sta che analizzo l'amplificatore ed era 45. Quindi così abbiamo tutta la mondetta, ce non credo entrare tu. Io qua c'è un amplificatore riapparato, me lo regolo tu io, con 50 watt non disturbo nessuno. Capito? Nulla, proprio niente niente, manco una striscia dell'audio del televisore, me lo regolo tu io, anzi al minimo. Ho controllato tutti i piani, uno per uno. Anche perché lo sai che quando fai la regolazione degli amplificatori devi controllare l'ultimo piano e poi hanno il primo piano. Se vuoi creare il segnale buono, buona tutto così, tanto inutile sollevarlo, tanto metti in saturazione tutto e non ne capi i piedi, perché si autodisturbano, capito? Sì, ma questo è lo stesso, cazzo, guarda, l'ho pregato. Ci ho detto, ma fammi analizzare, se tocco io ti ho ragione. No, ma l'apparato cazzo di tutti, così, i coglioni, vabbè, salgo sul tetto, glielo regolo, vado di lì, metto forza nulla, ho detto che ha ragione, sì. C'era il preamplificatore a 45, ma quale che ti ha? Ah, non è 45, non fai niente, i cazzi. Dopo... erano 30, 20 dB, 30 dB, sono tutti quanti 30 dB di guadagno, insomma, ma non ho disegnato 15. Mi sto dicendo, di mai è di là con l'elettrotecnico, mi sto dicendo ignorante di materia, è ignorante. Sì, un'altra volta me l'hai capitato lo stesso, sempre dal vicino, questo vicino è da una vita che mi rompe le palle, no? Viene uno l'elettricista, il primo impianto antenna era fatto, con l'elettricista cosa ha fatto? La prima cosa era fatto, ma va tagliato il capo del 213. Cazzo, poi si aveva esplato l'antenna. Cazzo, vado a modulare, è capitato che proprio il giorno, cazzo, andate a modulare, non riuscivo, siete un cazzo, guardo la stazione a paletto. Vado a fare apposta, vado, salgo sul tetto dalla massata. C'ho la scaletta, state me le picco di lì, installando l'antenna. E col cavo dell'antenna lì a rotolo. Un cazzo lì che sa l'elettricista, e cazzo l'ha tagliato il cazzo, ma anch'io. Perché disturbi, no, cioè un sacco di cazzata, ma per piacere, cazzo, non toccarmi niente, la monava e finisce le minchiate. Io avevo denunciato per le... per cosa a voi per l'arreggiamento secondo me non un po' di niente che te ne stavo allora ve lo fai a parte il capo tagliato dare anche problemi in trasmissione perché c'è perdite poca roba ma c'è perdite no, già l'avevo tagliato su in punta non è che l'avevo tagliato ma per quello ho lasciato perdere, ho detto va lascia perdere, avrò saldo io di nuovo il coglio, ma non dire semente, ecco, essere un elettricista poi, ma con antennista. Un sacco di cose, ma ti rendi conto di cosa stai dicendo? Ma se uno c'ha l'apparato omologato in concessione, tu vai di dici, perché nella mia via un altro CB di surfa, a me non mi interessa un tanto allora. Adesso tu l'ha fatto. Guarda, adesso stasera stavo parlando con una persona di fronte che era un CP lo stesso in questa via, una moto modulata, Sì. Anche a quello, va. E siete sempre la solita gente ignorante. Inutile. Oh, poi il bello è, cioè, suona il campanello, parla, discuti normale, no? C'è un problema, magari può essere la antenna, dice, no, subito sei dietro l'apparato, cazzo, subito mi fanno un casino. E subito si mette la voce, ciao, so, dillo a me. Mamma mia. Guarda, certe volte mi... Ma... mi svogliano, cazzo, di vedermi tutta la razza, fa culo. Esagerato. Mi sono capitato a me, non ti preoccupare. Che cose così strane nella vita. La strada 4, figo, è diventata modulare, ho avuto problemi con il condominio, io dove abitavo come perizzetto, ma c'era un po' di casino. Mi trovavo vicinato io. Stavo sempre a tuffarmi, venivano a casa mia, mi rompevano le balle, poi si aprivano con mamma, mia madre, ah, ma la vita a me c'è dove ti ho comprato l'apparecchio. È dietro veramente. Allora, brutto, mi è passato, mi è passato. Sì, lo stesso quando c'era la radio IT, questa radio che ho comprato tutta la roba io, cazzo, era in questa via, ma molto più in basso, e non ti dico del casino che lì combinava le cose. Quello c'è penso che non ha più trasmesso per quel motivo, avevano mandato le scolari, era tutto regolare, il TV non le faceva, non le aveva faceva TV, erano veramente in tutte le marce che c'aveva. Guarda che questa via ho fatto, che di perdere l'antenna e c'è la roba di 40 anni che sta lì. E allora, aveva fatto la luce più fatto della frequenza, adesso se la fa che vendere si fa un po' di soldi. Sembrano che cazzo litigano per spendere fai una settantina o tantina, lo fai un mio impianto, litigano per me, c'è certa gente che ha le antenne affitte, ma infatti certe volte io dico ma fa una cosa che abbia dell'antenna, cazzo, che c'è 40.000 anni, certo che è pieno di antenne così al centro storico, le fanno grandi affitti e ancora sono così. Non per dare sempre retta a noi, Ali, non per avere sempre ragione noi, ma il troppo non ce lo possiamo mai avere mai noi. E io lo so, ma la gente ne ha. E quindi fai spiegaglielo tu, le cose. Sì, lasciamo correre, ma sarà sempre un gruppo, bello, peraltro, tutto lì. Sì. Anche a Gianni Giaguaro lì in quella zona, cazzo, aveva fatto casino mio periodo. Un poliziotto, cazzo, doveva fare un casino alla Madonna, non so poi come l'ha risolto il problema. Effettivamente già rientrava in questo posto, ma era tutto a causa dell'impianto, tutto fatto male lo stesso, l'aveva fatto sempre il famoso antimista. Che va a casa di quello, Gianni Giaguaro? Il comprate la roba lui e le installa lui le antenne, così almeno è tranquillo quel poliziotto. Poi si fa abitare la cena alla figlia e se la tromba. Che bello. E la volta me l'ha raccontato e poi un radioamatore ce li ha detto, sì, è proprio lui. Come ti ha portato su, manca il segnale. Che è un vero. Ha fatto perché insomma non è che vanno molto molto d'accordo, no? Ah, non si possono fare allora. Mi ha detto apposta così. E allora quello è andato là. Tanto ti chiamo l'esponario, l'altro è con io, quindi a ultimo c'è una fitta, guarda, ci mi giurmi in piano come amico che ho pieno e un po'. Cioè, ma. E lui, poi ha risolto tutto quanto, poi c'è anche un mio amico, un altro, che c'ha un 140, freccia rosa, le senti Antonello, te lo ricordi? Sì, me lo ricordo. fatto? Quelli sono proprio amici miei, c'è Antonello, e di fronte a lui c'è un altro mio amico. Fatto sta che lì c'è la stessa cosa di come facevo tipo a io al vicino. Poi toccate alla lista, magari è l'amplificatore 45, però non ha risolto il problema. Sicuramente sarà la stessoria di questa logaritmica con l'amplificatore 45. O roba di un quarto e mezzo già niente. Bisognerebbe contattare il controllo degli impianti, che sono stati fatti gli arittivi. La maggior parte sono tutti impianti cagatti, comprati con gli amplificatori da 10-20 euro. Che beccano tutta la mondezza, le forme che fai di voi. Cioè, fai almeno un impianto appena discreto, poi con quello che costano adesso, vai in quelli per i mercati, le antenne lì, altri elementi, compri amplificatore, alimentatore, con uscita 3 TV, poi le spendi 60 euro. Sono buone quelle, no? Buone sì. Quindi sono con la spina di pesce, come la chiamare, logaritmica, quella pompa un bene. Un'antenna unica ci può attaccare 5 televisori. No, non dicendo quella, sto dicendo tipo quelli che non ipermercato sono naturalmente a cose di genere 3, tipo le televette, non sono come quelle gialle. Sì, ho capito, ci sono anche quelle lì. Poi ci sono quelle, ci sono uscite parecchi tipi di essere antenne, belle. So, guarda, ho usato una di quelle così, tipo la televe, trapscattore, alimentatore, tutto fatto perfetto quello di piano. Una bella, poca spesa, è perfetto come ricezione. L'ho messa su a Tiesi, qui infatti il prossimo che mi capita vado e le prendo da là. Perché di solito uso quelle da fraccarlo, se tutto fraccarlo, se è possibile tutto fraccarlo, ma è buono. Cioè sono antilogaritmici anche io. Ma quelle le uso nei punti B dove va benissimo, ma. Via, ci ho capito. E bisogna andarsi ogni tanto. Tu sperimentare, studiare cose nuove. Almeno che. Anche per spendere meno e guadagnare di più che altro. Beh, no, io me ne passo in quaretti. Ci sentiamo a limite domani se si apparacchino là. Io mi corico adesso. Poi domani di giorno sto lavorando. Poi se capita di sera, sono tardi, mi entrerò magari. Già qua, devo ubriacare una casa. Così me la faccio prima e poi. No, mi rompono le palle nel periodo di ferie. Ok, ciao. Ciao, ci sentiamo a domani, ciao. Sì, ci sentiamo vicino a Claudio e gli altri, ciao. Ciao.